E tanti giornalisti illustri come Curto Martese, Filippo Facci, Davide Parenzo e Giuseppe Cruciani. Tutti impegnati in un legittimo disegno politico comune che ci inquieta. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di collesto, fanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Sin quando la giustizia è di una parte, sin quando c'è una parte di PM che vogliono attraverso delle sentenze uccidere il leader del nostro movimento politico, del Popolo della Libertà, la questione è grave. E poi dice la Santanchè: se lo uccidono, cioè lo uccidono politicamente, credo che non si riferisca all'uccisione vera e propria, insomma all'omicidio di Berlusconi da parte dei giudici, però non si sa mai. Se lo uccidono, non paghiamo le tasse. Se non paga più le tasse il elettore, vostro popolo? Io credo che il nostro popolo potrebbe arrivare a questa conseguenza. Dirà: sì, tu mi vuoi uccidere il mio leader, quello che io ho votato? Tu vuoi fare questo attraverso, non come dice la nostra Costituzione, che il popolo è sovrano e quindi con il risultato delle elezioni. E allora il nostro popolo avrà solo uno strumento: non faraggiare più lo Stato, non pagare le tasse. Se i piccioni spariscono. Questa era rivolta alla Santanchè. Eh beh, certo. No, ma dai, stai dando dalla gallina alla Santanchè, ma smettila. Solo. Cioè, nel giorno. La polemica nel politica. Giorno in cui. Nel giorno questo in cui. Questo l'ha detto ieri sera, non sì, l'ha detto oggi. Ieri sera ha riproposto. Oggi per lei sarà sempre valido. Nel giorno in cui, nella sentenza Cucchi, i medici vengono tutti. Voglio dire, ma i medici ma di che sono cosa? Stati assolti. Ma sono stati, ma di cosa? Il pianto della madre, della sorella, dico, ma di cosa stiamo parlando? Che dovrebbero fare questi cittadini che a loro dire non hanno avuto giustizia? Come al solito è il politicamente corretto, è l'ovvio che regna. No, io dico che allora anche i parenti di Cucchi oggi dovrebbero dire le stesse cose che dice il deputato, cioè, Santanchè. Bravissimo, certo. Io dico solo una cosa sulla vicenda Cucchi, non conoscendo i particolari dettagli, no, ma naturalmente. Aspetta, dico solo una cosa. Le sentenze sono sempre una vergogna, chissà perché, solo quando assolvono. No, le sentenze, fammi finire. Le sentenze sono sempre una vergogna, no, solo no, quando assolvono. E in particolare quando assolvono agenti. No, infatti, in divisa, cioè persone in divisa. Infatti, ho fatto l'altro ragionamento. Punto e basta. No, poi no, non faccio io nessun infatti, non sapendo nulla della vicenda, non sapendo nulla, e non so se il pianto della madre lo capisco, ma la giustizia ha detto il processo e la giustizia ha detto questo. Dico che allora la madre e la sorella di Cucchi dovrebbero dire cose ben più aspre di quelle che ha detto l'onorevole Santanchè. E se i piccioni spariscono. Oh, Grillo continua sui giornalisti, vedremo se lo stipendio dell'anchorman è congruo. Quando cosa? Quando prenderemo la Rai? Quando? Adesso diremo quanti i grandi anchorman e le grandi anchorman che fanno denunce così guadagnano poi in Rai i loro stipendi, visto che vogliono sapere le nostre diarie. Vediamo se il loro stipendio è congruo con quello che fanno, perché sono soldi pubblici. Beh, congruo rispetto a cosa? Per carità, c'è un problema anche alla Rai di personale, quello che volete, di spese, però chi lo decide se è congruo lo stipendio? Non lui. Grillo? Non lui. Un'azienda lo decide, poi l'azienda può sbagliare, certo. C'è la Corte dei Conti, certo. Paga sempre pantalone, diciamo la verità, paga sempre sì, pantalone. Ma non lo decide lui. I giornalisti sono più spregevoli dei politici, li tengono in vita. Sentiamo ancora Grillo. Sono veramente spregevoli più i giornalisti che i politici, che li tengono in vita, con servizi schifosi, vergognosi. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Oh, dall'ultima parola, Carlo Pravettoni, divertiamoci un po', va. La Chienghe, quando ha visto Borghezio, cosa ha fatto, eh? Pravettoni, Paolo Hendel. Parliamo di Borghezio. Oh, poi che ci mancava? Borghezio ha detto che la Chienghe farebbe bene a tornarsene in Congo. Sì. Oddio, quando la Chienghe ha visto Borghezio, la tentazione di lasciare l'Italia ce l'ha avuta. Come biasimarla! I grillini che hanno votato il referendum sul microfono di legno hanno scoperto l'acqua calda, eh? Hanno scoperto l'acqua calda, cioè chi è che sono i più faziosi? TG4, TG4, poi c'è Fede. TG4, no, Totti, il direttore Totti, di Studio, sì, Aperto. Sì. E poi c'era Porta a Porta. Mazza, avete speso non so la quanti roba, giorni. Hanno fatto la consultazione online per scoprire delle puttanate pazzesche, cose che si dicono da 30 anni. Evidente. Troppe galline rispondono. Oh, il Movimento 5 Stelle ha intervistato Floris, il quale risponde, no, scusa, cercate, sì, uno del Movimento 5 Stelle, sì, ha intervistato, ha incrociato, sì, Floris, il grande, sì, uno dei grandi accusati da Grillo, no? Sì, sì. E a un certo punto gli hanno chiesto, insomma, sentite come risponde Floris, cercate un nemico esterno per compattarvi. Noto una trasformazione appunto tipica dei movimenti neonati, si cerca di trovare un nemico all'esterno del movimento per mantenersi compatti. Quelli con un leader molto forte come può essere Berlusconi o come può essere Beppe Grillo riescono in una maniera bella, netta, a trovarlo e individuarlo. Appunto ci sono i sondaggi sul web, Berlusconi invece... Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono. No, ci siamo dimenticati Paolo Hendel che parla della poligamia di Berlusconi, eccezionale, eh? Risentiamo ancora, Pravettoni, anche Berlusconi è a favore della poligamia. Su questa storia della poligamia. Sì, ha detto alla Chienghe, ha detto che non rinnega la poligamia perché fa parte della sua cultura. Perché io ne ho parlato proprio ieri con Silvio. In linea di principio, anche a Silvio la poligamia gli andrebbe bene. Sì. Però è preoccupato per il dopo. Già si sta rovinando con gli alimenti a Veronica, figuriamoci con una decina di mogli. Meglio scapolo, meglio! Vabbè. Evviva Silvio! Le persone su Twitter vorrebbero che io dicessi che la sentenza sulla vicenda Cucchi è una porcheria. Non sono abituato a fare queste cose. Cioè, ho espresso un pensiero che prescinde anche dalla sentenza e dai dettagli. Ho detto, sentendo le reazioni, vergogna, eccetera, eccetera, ho detto semplicemente che spesso in Italia le sentenze si grida la vergogna quando ci sono sentenze di assoluzione, mai quando ci sono sentenze di condanna. Dipende. Ma quasi, dipende. Mai, quasi mai. E in particolare quando ci sono sentenze di assoluzione che riguardano gli agenti. 800 24 00 24, in collegamento con noi Gianluca Buonanno, Lega Nord, pro sindaco di Marallo Sesia. L'onorevole Goodyear, no? Ma perché Goodyear? Perché non ti piace l'onorevole Goodyear? Onorevole, buonasera, evviva, eccolo. Ma lui ce l'ha morto perché sono leggermente più alto di Parenze, quindi ce l'ha con me. L'onorevole Buonanno. Senta, lei da che parte sta? Dalla parte di Maroni o dalla parte di Bossi? Buonanno. Io sono dalla parte della Lega e quindi abbiamo un segretario federale che è stato votato e quindi c'è una classe dirigente e quindi questo è, cioè non è che... Ho capito, ma... Si può esprimere però un parere, scusi, si può. Bossi dire sto con Maroni, Bossi, se uno ci sta. Lei sta si con possono Maroni. Tirar fuori i coglioni alle volte, io o solo che, contro gli io immigrati io si tirano che fuori? Nei prossimi giorni, o magari già anche stasera o domani, si parleranno e si chiariranno, perché comunque senza Bossi non ci sarebbe mai stata la Lega e non ci sarebbe mai stato un certo discorso, però oggettivamente, leggendo anche l'articolo oggi di Vittorio Feltri sul giornale, mi trova in tante parti d'accordo, dove ha fatto una serie di valutazioni che condivido. Però scusi, Buonanno, adesso per carità, Feltri va benissimo. Però, cosa fa il politico serio? Fate queste risposte che sembra uno però, normale. Però scusi, quello ha sembra detto. Sembra uno normale. Bossi ha detto, ma è normale, Buonanno? No, ho detto, sembra uno un politico normale. Bossi dice, ha no, detto che è un. Che Maroni è un traditore, voglio dire, se Bossi fosse stato segretario, ecco, frasi come quelle pronunciate da un militante, anche se in questo caso il presidente espulso sarebbe stato cacciato immediatamente, mi dica la verità. Immagino di sì, però ovviamente tutte le persone cambiano nel corso della vita. Io non penso che voi ragionate nella stessa maniera quando avevate 20, 30. Ho capito, ma la domanda è questa: anni, è rincoglionito, no? Bossi, quindi, secondo lei? Buon anno, no, è rincoglionito? No, no, no, no, no. Allora, Bossi non è rincoglionito, e questo io lo posso testimoniare perché lo vedo, l'ho visto ancora 10 minuti fa in Parlamento. Quindi, cioè, lucido. Certamente non è rincoglionito, però nella vita, come anche in un matrimonio, marito e moglie ci possono essere delle divergenze, si può anche bisticciare, ma poi alla fine si può anche tutto rincompattare, cioè, quindi non è detto che sia proprio una tragedia. C'è in questo momento una dialettica, però io ripeto, riconfermo, il segretario federale si chiama Roberto Maroni, è stato votato all'unanimità. Vabbè, lei sta, io sto dalla parte di Maroni. Recentemente, Lei sta dalla parte di Maroni? Sì, però mi rendo anche conto che un personaggio importante, storico come Bossi, che ha fondato un movimento, che ci ha creduto quando non ci credeva nessuno, eccetera, eccetera, se vede delle cose che non gli piacciono, le esterna, però ovviamente non si può giudicare Bossi come un militante qualsiasi, come un deputato qualsiasi, perché è stato il fondatore della Lega, quindi è ovvio che ci deve essere nei suoi confronti comunque un rapporto, tra virgolette, speciale. Ma è giusto che prenda tutti quei soldi di appannaggio, Bossi, secondo lei? Guarda, io non so se prende soldi di appannaggio, queste cose io non le so. No, a me interessa se i miei soldi, che per fortuna fra poco finiranno, non lo so, ma il bilancio io della Lega lo saprà. Una riunione lo chiederò. Ma come lo chiederò? Scusi, c'è stata una riunione del Comitato Federale della Lega. È io stato non votato parte del Comitato Federale. Ma lei saprà come, però, per essere proprio terra terra come a lei piace, come lei è. Sì. Le interesserà sapere se i soldi della Lega dove vanno a finire, i soldi della Lega. Cioè, se 200.000 euro vanno a finire alla scuola, saperlo, alla scuola Bosina, della moglie di Bossi, va bene o no? Le interesserà. Allora, se è fatto esattamente così, non va bene. Io però queste cose le voglio sapere da chi guarda esattamente i conti, non per leggere sui giornali o qualcuno che me lo dice per interposta persona. Quindi, siccome io sono a Roma e domani ho la possibilità di incontrare persone che possono dare delle risposte, e domani lo saprò. Senta, buon anno, ha saputo che la Idem e la Boldrini andranno insieme al Gay Pride? Cioè insieme, no? Ecco, questo è un esempio tipico di come questo paese sta andando alla deriva. Addirittura, come mai? Eccolo qua. Ma non lo so, un presidente della Camera e un ministro che è appena diventato ministro fa come la Kienge, come si chiama? Kienge. Dai, ma su, non storpi i nomi. Non so pronunciarlo bene. E neanche io so pronunciare il nome Buonanno. Lei è l'onorevole Buonanno. Parenzo, lei è Buonanno da oggi. Se non sa dire Kieng, se non sa dire la parola Kieng, io dico Buonanno. L'onorevole Buonanno. Buonanno. Si pronuncia così. Come si pronuncia? Scusi, ve lo ripete ancora. Perché congolese? Ma ti rendi conto? Perché Buonanno? Scusi. Buonanno. Comunque, è come un po' la vicenda dell'Ilva. Io ho fatto un intervento sull'Ilva e ho detto: ma parlate tutti di ambiente, eccetera, eccetera. Ma chi è che governa la Puglia? Un certo Nicky Vendola di l'abbiamo sentita. Dov'è l'ecologia? Non lo so, perché lì c'è solo inquinamento. La libertà è invece disoccupazione, e invece di pensare troppo all'adozione per i gay, pensasse di più all'Ilva. Cioè, alla fine qua ci mancava solo che dice solo perché il Gay Pride o Vendola perché vuole adottare un bambino. Ma perché non può andare? Ma io penso... Ma perché la Idem e la Boldrini non possono andare al Gay Pride a Palermo? Perché vanno dove hanno voglia, però se rappresentano delle istituzioni mi sembra non il caso di partecipare a determinate cose, perché qua sembra che se uno è un gay, una lesbica, deve avere la priorità su tutto. Ma cosa stiamo dicendo? Ma c'è una società o non c'è una società? Rappresentano delle istituzioni o non le rappresentano? Cioè, le istituzioni secondo lei... Vado alla carnevalata dei gay, delle lesbiche, contenti loro, ma secondo me sviliscono le istituzioni. Per cui, siccome lei dice è la mia presidente, non deve andare a rappresentare alla Camera il Gay Pride? No, faccia quello che crede, tanto l'ha sempre fatto, lo faccia quello che crede, però il mio parere personale, io fossi al suo posto non ci andrei. Perché Idem e Boldrini vanno insieme secondo lei? Si vede che vanno d'accordo, stanno sotto braccetto, non lo so io. Qual è il motivo? Anche la Idem adesso voglio dare la cittadinanza per meriti sportivi. Ma qua diamo i numeri. Cioè, uno per merito sportivo deve avere la cittadinanza. Ma che cavolo stanno dicendo? Ma qui si sono montati tutti la testa. Un attimo solo, traffico, torno subito. Cosa ha fatto la canoista prima? Cosa ha fatto l'assessore da qualche parte? È diventata ministro, mi deve spiegare in così poco tempo. Quello è il segreto del successo. In così poco tempo come può fare il ministro? Avere vinto le medaglie d'oro. Un attimo, traffico. Eccoci qui, 18:50, la zanzara di questa sera con Gianluca Buonanno, arrabbiatissimo. Buonanno. Perché Buonanno? Perché sbaglia a dire il nome della ministra Kyenge. E allora tu lo chiami Buonanno, cioè buon no, io sedere. Non so pronunciare, buon io non so pronunciare il suo nome. Invece di Buonanno, di Good Year, Buonanno. Good, good ass, così good si chiama. Ass intanto si dice, ma comunque è onorevole Buonanno, perché non sa dire Kyenge. No, a parte che Kyenge, credo. Buonanno, lei sa qual è la capitale del Congo? No, non mi interessa. Ma come no? Lei, scusi. No, ma non le interessa perché il Congo... Le dovrebbe interessare perché detto... la ministra dell'integrazione, che è anche la sua ministra, il suo ministro, no? O lei non la riconosce come suo ministro? No, non mi riconosco perché l'ho già dichiarato la settimana scorsa. Ma no, cos'è, ma in che senso? Dichiarato? Non è che lei dichiara... Ha detto che siccome lei dice di rappresentare tutti gli italiani, io mi sono permesso di dire che lei non mi rappresenta per quello che è il suo comportamento e per quello che dice. Scusi un attimo, però la capitale del Congo lei non sa qual è? No, non so qual è. Cioè, il paese di origine del ministro Kyenge. Lei dovrebbe documentarsi sul ministro Kyenge. Per esempio, lei sa quanti fratelli ha? Ah, ma più di 34, 37. 38. Che effetto 38. Le fa una persona che ha 38 fratelli? Bellissimo, famiglia strapitosa. Bello. Ma direi che speriamo che non li porti tutti qua. Sì, eccolo qua. Eccolo perché qua. Comunque con il ricongiungimento familiare ce le avremo poi tutte da mantenere. Addirittura. Ma magari beh, insomma, io vedo da amministratore locale che tutti quelli che fanno ricongiungimento familiare. Da amministratore locale. Amministratore è un problema. Locale. Scusi un attimo, ma lei si definisce amministratore locale? Lei si sposerebbe mai un comune di quattro persone? Lei si sposerebbe locale? Lei si sposerebbe mai? Ma vedi che ma ti devi imparare un po' l'educazione, te Parenzo. Quello sempre. Adesso fa diventare Varallo Sesia l'Omphalos, il centro del mondo, capito? Una concezione tolemaica. No, l'onorevole Buonanno considera il fatto che amministra un comune che si chiama Varallo Sesia, con tutto rispetto per chi abita Varallo Sesia, però ogni volta dice io sono. Però non è male. Buonanno non è male. Buonanno non è male. Cruciani, scusa, me lo dicesse uno alto come te mi metterei a ridere, ma me lo dice Parenzo che è più piccolo di me, è peso del peso. Ma cosa c'entra? Comica. Tu, siccome hai offeso un ministro della Repubblica... No, io non ho offeso nessuno. Perché no, hai offeso? Fatto battute non sapendo pronunciare il nome, battute? Non sapendo qual è la capitale perché Kinshasa del Congo, non sapendo... Ma scusa, è un delitto non sapere qual è la capitale del Congo? Lei uscirebbe, scusa Buonanno, tu usciresti mai con il ministro Kyenge, cioè con una persona di colore, con una persona di colore, tu ti metteresti, ti fidanzeresti? Fidanzerei? Con una persona di colore, no, ti fidanzerei? No, non, cioè, la mia vita privata è un'altra cosa, non mi interessa, cioè. No, ma ho capito, ma tu ti fidanzeresti con una persona di una persona di colore o no? Penso di no. Penso e di perché? No. Ma perché mi piacciono le bianche. Ma che vuol dire ti piacciono le bianche? Come si può innamorare? Mi piacciono le persone bianche. Cosa vuoi che ti dica? A te piace la pasta asciutta, a me uno piace il risotto, a me piacciono le persone bianche. Ma perché ti piacciono le persone bianche? Come fosse una categoria, le bianche, le nere, le vabbè, gialle. Fallo parlare, fallo avete parlare. Detto voi bianche e nere, scusa. No, fallo parlare, ma perché ti piacciono le bianche? No, ma infatti io non ti sto dicendo niente, è lui che attacca sempre. Perché sto dicendo No, dimmi. Perché ti piacciono le bianche? Scusami Gianluca, spiegami. Ma che ne so, mi viene normale e quindi non avrei visto mi è mai passato per il cervello di uscire con una persona, diciamo così, di colore. Cioè, ti farebbe schifo, dici? No, non mi è mai passato per l'anticamera del cervello, quindi non sto dicendo che mi farebbe schifo, diciamo che non mi è mai passato per la mente. Ma perché? Ci deve essere qualche motivo, cioè non è che viviamo in un mondo strano, viviamo in un mondo normale, cioè viviamo in un mondo dove ci sono persone uno di colore. Una bella ragazza, gli piace indipendentemente dal colore. Allora, si vede che non ho mai avuto la fortuna di incontrare una bella ragazza di colore. Perché sono tutte non ho mai avuto questa fortuna. Vabbè. Comunque, la capitale è Kinshasa, eh? Senti, tu a Kabobo che cosa faresti al signor Kabobo? Quello che è il ghanese là. Cosa faresti? Diciamo, dimmela tutta però, Gianluca, non ti tirare indietro. Signor Kabobo, cosa faresti? Cosa faresti? Ma io mi auguro che stia in galera finché campa. Finché campa, Ti sei un po' trattenuto. Sì, ma è proprio la cosa più leggera possibile, anche se, come ho letto e sentito, è possibile che in realtà poi esca per infermità mentale, quindi vada in una clinica, poi non si sa più che cosa succede. Però uno che commette e ammazza tre persone in quella maniera, secondo me, è il massimo della libertà è stare in galera tutta la vita. Ciao Gianluca, presto! Ciao. Ah, volevo dirvi una cosa. Che succede? Aspetta, allora se vuoi ce la dici dopo, eh. Ce la dici dopo. Intanto c'è la pubblicità e il giornale Radio 800 24 00 24. La zanzara inizia così. Non esiterei certamente a stringere la mano a questo ministro. Se viene qui a Strasburgo potrei anche invitare la cena. Non ci sarebbero problemi da parte mia, perché io non sono razzista. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Oh, Parezzi, è arrivato il primo commento di Giovanardi sulla vicenda Cucchi, sulla sentenza. Lo aspettavamo, Cucchi. Lo aspettavamo. Il tempo è galantuomo e ha fatto giustizia di pregiudiziali ideologiche enfatizzate dai media che attribuivano responsabilità agli agenti di custodia per un pestaggio mai avvenuto. Dunque, il tempo è galantuomo, il pestaggio non era mai avvenuto. Mio sorriso, mi adorano perché abbandono. Oh, Briatore incazzatissimo con Ballarò. Ma ora scusi, chi se ne frega, Cruciani, no? Uno si chiede, ma sì, del commento di Giovanardi sulla sentenza, sì, ma... Cucchi, c'era bisogno? Abbiamo tempo, discutiamo tempo, più avanti. C'è tempo, assolutamente, c'è tempo. Crozza, Crozza contro Briatore, anzi no, contro Briatore, su Briatore. Poi Briatore... Beh, Crozza fa il comico. Che sì, ma però Briatore si è scatenato, non è una notizia, non è la polemica del secolo questa qua, eh. Però, Crozza Briatore. Che cosa pensa di Matteo Renzi Flavio Briatore? Ma per me Matteo Renzi... Renzi, sì? È un politico al top. Al top. Mi dà delle sensazioni. Sì, sensazioni. Io vedo che riesce a dare un uomo... Sì. Un uomo che riesce a dare un sindaco, che è anche sì, sindaco di quella città che è stata governata in passato da quella famiglia di sì, farmacisti. No, no, no, no, erano nel medici, periodo i medici della Rinascente. No, no, Rinascimento, Rinascimento. Sì, l'imitazione non è il massimo, però il soggetto, il soggetto non è male. Ancora, ancora Briatore, Crozza Briatore. O chi oggi? Renzi a tavola. Sì. Cosa ce lo siamo detto? Ah, cosa vi siete detti? Destra e sinistra. Sì. Sono solo due brand vuoti. Due brand? Per me Matteo, sì, per me Matteo il mondo si divide in... Vuoi sapere come si divide? Sì, lo dica, tanto... Lo si divide in o copertina di chi o copertina di oggi. Vabbè, che però non sono due valori. Ma Renzi è al top quando organizza una gara di ballo Waka Waka tra Pupo, Natalie Caldonazzo e Nando Pagnoncelli. Ma no, ma come... E con il ricavato costruisce un tapirulan per rendere più fashion il Ponte Vecchio. Allora capisci che Renzi è un sindaco da sogno. Ah, da sogno. Che però vuol guidare un partito da incubo. È geniale, assolutamente, sì, assolutamente geniale. Briatore si è incazzato, perché si deve incazzare? Ha detto Flavio, senti sempre su Briatore. Twitter, senti cosa scrive. A Ballarò c'è un gruppo di ritardati. Questo ha detto. Beh, è forte, quando fa battaglia così è forte. Beh, lotta! Ma perché? Come lotta! Come lotta con Leone, signor Briatore, dal Kenya, lotta moltissimo. TG3 titoli, il prosindaco di Varallo è ancora no, con no, basta. Prosindaco di Varallo, voglio dirgli una cosa a Buonanno. Prima Buonanno ha detto... È come Gentilini, tra l'altro, è passato il sindaco. Sì, quando ti prende, ti vede, ti do tanti di quei calci nel sedere che ti faccio diventare più alto di me. Minaccia, che mi ricompro la casa a Roma. Ascoltami, Buonanno. Buonanno, ascolta, Buonanno. Buonanno, tu per me da oggi sei Buonanno perché hai insultato il ministro. Ma io non e non sai pronunciare il suo nome. E non sai pronunciare il suo nome. Cacchio fazioso, dai ragione a Grillo. Prima hai detto una cosa molto grave, hai detto che i ministri non devono partecipare a quelle pagliacciate. Sì, è vero, lo ripeto. Hai ragione. Infatti, come mai andavate a venerare il Dio Po quando eravate ministri? Da cosa c'entra? Quelle non erano pagliacciate? Andare sul Dio Po non erano pagliacciate? No. Andare alle foci del Po, del Sacro Fiume, non era una pagliacciata? Abbiamo disturbato bolla, qualcuno? Abbiamo disturbato qualcuno? Ora basta! Abbiamo disturbato qualcuno? Non è che si fanno le sfilate come il carnevale con le lesbiche che devono far vedere anche tutto e girare com'è? Meglio il Dio Po! Meglio l'ampolla! L'ampolla! L'ampolla! Perché? Scusa, ma i gay pride cosa? Mi dava fastidio? Scusa, i gay pride cosa? Se mio figlio vede il gay pride, secondo me qualche problemino viene. In che senso gli viene poi il problemino? Ma perché vedi delle scene che sono orripilanti, fanno schifo! Ma cioè, il gay pride fa schifo secondo te? Ma secondo me sì. Ma perché fa schifo? Scusa, che si baciano lì nella strada, che fanno verso, si fanno vedere i seni rifatti e cose varie, vestiti come se neanche al carnevale di Rio, che quello almeno è divertente. Ma quello è se un bambino vede, che cosa può giudicare? E che ne so, se un bambino vede il gay pride, che fa? Che succede secondo te? Non so, una domanda. Secondo me si domanda giustamente che cosa sono quei pagliacci che stanno lì. Ah, cioè quelli che sfilano anche perché invece sono dei pagliacci. L'acqua del Po, il dio Po, no, invece. L'acqua del Po è un'altra cosa, non abbiamo disturbato nessuno, nessuno ha fatto scelte particolari, quindi è una cosa normale che si può fare. Poi normale, è normale, perché esiste il dio Po adesso. Che è in un posto pubblico, che non è certo su in montagna, dove se vuoi arrivare ci vai appositamente. Perché cioè tu dici, il rito dell'ampolla è una cosa normale, mentre il gay pride una pagliacciata. Più che una pagliacciata, perché ripeto, se un bambino vede quelle scene o la televisione o addirittura in diretta, perché vanno in posti pubblici, secondo me qualche problemino di spiegazione bisogna darglielo, e secondo me il bambino potrebbe anche incominciare a pensare che non quadra. Cioè il bambino potrebbe diventare omosessuale, dici? No, ma no, non sto dicendo quello, però se vede due uomini e due donne che si baciano, certamente una domanda se qual la è la capitale? E invece un bambino cresce E invece un bambino cresce bene se lo porti se lo porti sul Po, gli dici che c'è il dio Po. Se vuoi venire ci viene apposta. E gli dici anche tu a tuo figlio gli dici che quello è il dio Po. In un luogo pubblico vedere delle porcherie del genere. Perché tu a tuo figlio dici che quello è il dio Po. Due donne che si baciano è una porcheria? A me fa schifo. Ah, ti fa schifo vedere e due donne? Due uomini idem, cioè in un posto pubblico che si baciano a me dà fastidio. Scusa un attimo, ma posso dirlo? La capitale, sì, ma lo puoi dire tranquillamente. La capitale della Tanzania qual è, dato che non sapevi quella del Congo? Guarda, non farmi domande di geografia. Comunque quella del Congo è Kinshasa, giusto? Vabbè, adesso. Dai, su. Senti, ma lo sai che ha fatto venire il Papa? Vuole far venire il Papa a Barallo? Vuole far venire il Papa a Barallo? A Barallo in un posto? Ha chiesto il Papa. In un posto. La capitale della Tanzania devi chiederlo al bel sito, non devi chiederlo a me. A Barallo, va. Il Papa a Barallo. Comunque, senti, ma sai cosa ha pensato anche Grillo? Dimmi, Grillo, sì. Secondo me, adesso ho coniato questa definizione, che non vuole essere insultante, però secondo me è un pervertito politico. Perché? Perché? Perché fa tutte le cose, secondo me, pro domo la sua, come dire, senti il latino, la sua voglia di fare delle cose senza poi pensare che cosa prodomo può venirne fuori. Quindi è un pervertito politico. Pervertito, l'analisi. Vabbè, di ma ho capito. Ma e quando uno è pervertito, vede solo il suo piccolo mondo e fa anche delle cose strane e disgustose, magari pure perché non pensa che cosa può. Ma sai che non l'ho capito? Guarda, sì, sono bloccate le rotative del Corriere. Ferruccio De Bortoli ha bloccato le rotative del Corriere per mettere in prima pagina questa dichiarazione dell'onorevole Bruno. No, ma sai cosa fa Grillo? Due punti, un pervertito. Leggi questa cosa sul Corriere della Sera. Guarda, cosa succede a Barallo? Guarda, buon anno. Sul Corriere della Sera che non guarda, ci arrivi neanche. Buon anno, tu governi una città in cui leggo oggi su un giornale che è il Today, leggo oggi su che nella tua città, a Barallo, quella che tu governi, un ubriaco fradicio ha fatto sesso con il cassonetto della plastica nel tuo paese. C'è un ubriaco fradicio che fa sesso col cassonetto. Ti devi vergognare. Molestano pure i cassonetti a Barallo, hai capito? E poi ti lamenti dei fratelli della Kienge e fanno sesso con il cassonetto di plastica. Buonanno, vergogna. Ma questo dici, un ubriaco dai, che fa sesso con un cassonetto a Barallo Sesia, allora, con un cassonetto di plastica, cose che non sono vere. Ma è vero, è vero. C'è scritto, incredibile, ma no, episodio. Ma non è così. Hanno scritto una cosa del tipo che c'era un ubriaco attaccato a un cassonetto, dopodiché era sdraiato sul bidone con i genitali infilati nel foro con le alette mobili per inserire le bottiglie e gli altri imballaggi di plastica, capito? Uno è ridi tu, un ubriaco fradicio che fa sesso con il cassonetto solo a Barallo, solo a Barallo, solo la Lega, solo a Barallo. Guarda che comunque, a parte tutto, adesso i batti ci possono essere dappertutto. Ah beh, certo, e ci mancherebbe altro, quindi magari ce n'è anche uno vicino a casa tua. Dopodiché a casa mia non ci sono cassonetti, li ho fatti togliere tutti per paura. Vabbè, che qualche che tuo concittadino venga a molestare i cassonetti. Abbiamo il porta a porta anche noi, guarda. Abbiamo scusa il 60% di raccolta differenziata. Scusa, e invece a Napoli sono fermi ancora all'età della pietra. Scusa un attimo. Scusami, a Napoli? Scusa, io devo dirti... All'età della pietra. Scusa un attimo, buon anno, io però ti devo chiedere una cosa. Se un omosex, se un gay, si avvicina a te e ci prova, tu che fai? Gli do un calcio nei coglioni. Ma dai, Ismaele, ma perché così? Ma perché? Scusa, ma permettimi, se uno viene a rompermi le palle... Se uno ti corteggia, gli dai un calcio nei coglioni? Sì. Ma dai, su, ma se una donna ti corteggia, scusa? Cosa c'è? Ma perché devi fare delle domande idiote del genere? No, io ti chiedo perché perché per capire la differenza. Ti adoro e ti abbraccio. Ciao Gianluca. Beh, adesso ti ciao, adoro ciao, e ti abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, fra poco avremo un grande ospite, ascoltatore, Claudio da Forlì, ospiti. Grandissimo, soprattutto largo, largo, anche se lo vedo dimagrito, Claudio da Forlì, buonasera. Grandissimi ospiti. Claudio. Pronto? Dica. Pronto? Buonasera, dottor Cruciani. Quando posso vedo di ascoltare la vostra trasmissione, anche se la detesto per i turpiloqui e per l'arroganza. Ma non c'è nessun turpiloquio qui. Ma non c'è nessun turpiloquio. Ma posso andare avanti, dottore? Oh, grazie. Sì, ma ha ragione. Allora, anch'io ogni tanto voi tornate sull'argomento delle adozioni da parte delle coppie omosessuali. Io le dico la mia esperienza. 10 anni fa ho perso mia moglie, che mi ha lasciato con 2 figli di 12 e 13 anni. È stato veramente molto dura cercare di essere sia padre che madre, perché tutti coloro che sono attenti alla loro famiglia sanno che i comportamenti e il modo di bada al sodo, caro Claudio, lei è contro le adozioni gay. Nel difendere i difetti i diritti, mi scusi, sono impallato. Sei impallato, l'abbiamo capito. Le coppie omosessuali, che io sono perfettamente d'accordo. Qualcuno pensi anche alla salute dei figli. Io non lo so. La solita stronzata sulle adozioni gay. Va bene, grazie Claudio. Va bene, io la rispetto la sua idea. Lei è contro le adozioni gay. Io sono a favore. Qual è il problema? Siamo sulla stessa, la pensiamo in modo diverso, ma non c'è problema. Massimo da Milano, buonasera. Massimo. Buonasera. Dica, caro, dica. Senti, ora io dico una cosa sulla vicenda Cucchi di questa sera. Io dico solo una cosa. No, non esagerare. No, perché mi state facendo incazzare sulla vicenda Cucchi questa sera. Mi state facendo arrabbiare tutti perché mi state insultando pesantemente. Allora io dico solo. Abbi rispetto almeno tu della sentenza. No, ma io ho grande rispetto. Usa lo stesso criterio che usi con Berlusconi. Non o fai avete la santa prove, anche di turno. O avete le prove che la Corte ha favorito gli agenti, ha voluto scagionare per forza gli agenti perché ha un pregiudizio, oppure ha un pregiudizio favorevole nei confronti degli agenti, oppure non fiatate e non vi rompete le scatole. O portate le prove, perché parlate sempre di prove. Allora, o portate le prove che la Corte ha un pregiudizio favorevole, anzi, nei confronti degli agenti, oppure vi state zitti, perché non è che le sentenze possono andare bene solamente a seconda di chi è colpevole o di chi è innocente. Ma questo vale anche per i processi di Berlusconi, ma vale no? Per tutto questo. Cioè, vale anche quando la Santanchè critica i giudici abbiamo di Berlusconi. Abbiamo la borsa, torniamo subito. Ma qual è l'obiettivo vero della vostra trasmissione? La zanzara stronza, che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. È la zanzara danza. Io sono pietanza per la zanzara nella stanza. Lei russa e non si sveglia. La capra ce l'ha. Anche la capra c'è più là. Quanto coniglio? È morta la mamma 2 giorni fa. Però purtroppo i conigli sono molto delicati. Poi se li mangia, ti piace? Sì. Il coniglio ha una sua funzione. La gallina fa le uova. Il pollo ci si fa le fettine di pollo. Il coniglio si fa al forno. Ed il sonno poi mi assale. Lei lo sa ma sa aspettare. Era Antonio Di Pietro, passato dalla gloria politica ai campi, passato dalla gloria all'allevamento di capre e di maiali, un po' come Renzo Bossi, Un po' come Renzo Bossi. Beh sì, paragone il suo azzardato. Hanno avuto una vita politica diversa, diciamo, quella molto più lunga e quella di Renzo Bossi un po' più breve. No, ricordi però cosa Di Pietro ha sempre fatto l'agricoltore, Sì, quello è vero. Anche quello in passato quello lo ha fatto, mentre per Bossi è stato... E lì doveva rimanere. Che c'è, eccolo qua che si inserisce, Taormina. Che subito, è lì doveva rimanere. Professore, buonasera. Come sta, professore? Benissimo. Di Pietro doveva rimanere lì. E che i guai che ha fatto prima e quelli che ha fatto dopo. Doveva rimanere a fare l'agricoltore. In campagna stava meglio. Quale altro criminale sta difendendo in queste ultime ore, professore? Guardi, un giorno all'altro devo difendere lei. No, ma questo è... Scusi, professor Taormina, però qui siamo rimasti l'altro giorno. Lei ha detto che questo ha difeso un grande criminale della politica, sì. Democristiano, prima Repubblica ancora viva. E ora farà il nome. Per forza. Mai. Ma come mai? Che vuol dire? Ma non sono tanti. Ma no, e appunto, li cerchi lei, io non li dico. Cirino Pomicino. No. Ma no, mica no. Perché è un criminale. No. Appunto. Poi Mannino. È stato assolto. Mannino, sì, sarà stato assolto. In qualche cosa è stato assolto. Mannino. Prescritto. Io ho pensato assolto, a Mannino. Ma assolto, ma quello era innocente. Era innocente. Invece quello colpevole chi è? Ma è importante o no questo Democristiano? Era importante? Ai massimi livelli? Ai massimi livelli. Però qui oggi c'è Tormina perché ci ha portato, nel senso che il suo assistito. Franco Fiorito, buonasera. Applausi per cortesia dalla regia per Fiorito. Professore, faccia assolvere un innocente. Così arriva. È la cosa più difficile. Senta, lei si fida del professor Tormina? Ciecamente. Ciecamente, addirittura? Sì, sì. Ciecamente. Ho visto una grande forza nella difesa del professore, però diciamo in alcuni casi mi sembrava vana perché diciamo qualsiasi cosa dicessimo in alcuni periodi era considerata astrusa. Vabbè, ma lei si considera veramente innocente? Assolutamente sì. Cioè, lei non ha intascato un euro? Assolutamente nelle no. Sue tasche non ha messo un euro. In realtà io ho restituito anche quelli che legittimamente dovevo percepire, quindi... Cioè lei ha restituito più del dovuto? Ho restituito tutto. Anche quello che i famosi 100.000 più 36 che gli altri consiglieri hanno continuato a percepire. Fiorito. Quindi si considera una vittima della mala giustizia, Fiorito? No, di Dio. Il giudice che mi ha giudicato era una persona assolutamente seria. E allora non è vittima della giustizia? Io penso di essere vittima di altri politici, non della giustizia. Scusi un attimo, ma se lei ha restituito tutto oggi, come campa? In difficoltà? Ma veramente io ero benestante anche prima, insomma. Nel quindi senso ha soldi che... di famiglia? In questo momento, diciamo, non era la preoccupazione maggiore perché era più quella penale la preoccupazione. No, d'accordo, però ha soldi per campare, sì. Beh, per ora, penso. Sul conto corrente, sì. Poi, quanto ha sul si conto? Può dire. Sono ancora sequestrati, professore? Tutto sequestrato. Sì. Tutto sequestrato ancora? Quindi zero. Cioè, zero. E come fa lei a pagare, che so io, la benzina nella macchina, a comprarsi una cravatta, a comprare il formaggio? Gli avvocati, non li paga. Gli avvocati. Hai preoccupato, Tormina? Sono preoccupato. Ma che parcella gli ha fatto, avvocato? No, è un amico. Gratis, sì, sempre un amico, sempre. Gratis. Però voglio dire una cosa, sì. Quando lui dice che si sente innocente, perché vuole dire che quelle somme che ha percepito gli sono state date in base a delle delibere, a delle delibere. Bravo, ecco. A delle delibere. Vabbè, questa qua è la tesi, ovviamente. Non è una tesi, è un dato di fatto. Ma sì, questo però il tribunale ha detto di no. Secondo lei è strano che la Polverini sia in Parlamento e lei è finito in galera? No, assolutamente no. Cioè non è strano perché? È perché è stata molto più furba di me. È stata più furba di lei. Semplicemente furba. Cioè se l'è cavata. Però l'è cavata di più. La posizione di Fiorito e la posizione dell'onorevole Polverini, lei dice, sono molto similari. Guardi, io non lo dico perché non è mio compito, però è ovvio che io facevo parte di un'amministrazione regionale nella quale non ho fatto nulla di diverso dagli altri, quindi... Cioè lei non ha fatto nulla di diverso dalla Polverini, per esempio? Ma la Polverini faceva il presidente, ovviamente il ruolo era diverso, aveva responsabilità maggiori e oneri e rappresentanze molto maggiori delle mie. No, d'accordo, appunto, anche responsabilità maggiori. Responsabilità e vantaggi anche maggiori. E vantaggi maggiori, cioè, diciamo la verità, doveva finire in galera la Polverini? No, ma io non volevo finire in galera neanche io, non vorrei neanche ci finisse nessun collega. Io non sono una persona che cerca vendette, come stavo detto. Noi abbiamo spiegato quella che era però la realtà. È strano la Polverini in Parlamento e lei che è finita in galera? O logico? Cioè, due destini diversi, no? C'è due cammini politici. Chi sa destreggiarsi bene tra i meandri che conosce bene più il professore del Parlamento e delle alte sfere, chi come me viene dal basso e spesso si scontra contro altri tipi di mentalità con le quali ero poco avvezzo. Insomma. Però c'è l'autorità giudiziaria che sta facendo gli accertamenti. Come non è scuso che venga indagata la Polverini, dice lei? Ma queste sono conclusioni che traggono i magistrati, però se tanto mi dà tanto, questi sono i dati che sono stati raccolti dai magistrati. Senta, come sono stati 3 mesi in carcere? Terribile, le ha detto, ma le è successo qualcosa di drammatico? Che ne so, qualche violenza, qualcosa? Ha assistito a fatti drammatici? No, ho visto oggi c'è la sentenza Cucchi che parla di questo problema, in realtà... il trattamento che ho avuto è stato esattamente come gli altri carcerati, ma di grande sensibilità da parte sia delle forze dell'ordine, ma anche e soprattutto dei, tra virgolette, colleghi carcerati. Quello che è veramente qualcosa su cui, al di là della mia vicenda, andrebbe approfondito anche politicamente, è la condizione delle carceri italiane, perché diciamo non solo dal punto di vista igienico e strutturale, ma quello lo sappiamo, è qualcosa di veramente disumano rispetto alla... Ma l'ha invecchiata il carcere? Cioè l'ha provata? Lei si sente più vecchio di quando è entrato o no? Tutta questa vicenda credo mi abbia invecchiato. Di quanti, lei quanti anni ha oggi? Ah, ne ho 41. 41? Sì. E ne dimostra invece, secondo lei? Lei pensi che quando iniziai a fare politica ero anche bello e magro, quindi veda, tra la politica e il carcere ho accumulato... Cioè lei ha 41 anni, Fiorito. 41 anni. Ma sembra... Sono stato eletto il più giovane consigliere regionale della ma scusi, ma lei si è guardata allo specchio, scusi, non è mica per altro. Però lei ha 5 anni più di me. Io ho 5 anni più di lei, sì. Ma non sembra, anche lei sembra giovanissimo. Questa... Scusi, Fiorito, ma lei come faceva il sesso in carcere? Non le mancava? Sì, molto, sì. Credo che fosse la cosa più terribile. Infatti il pensiero di chi ha condanne più lunghe da scontare credo che sia qualcosa di terribile. E come faceva? Io non lo so, non ho fatto, non ci pensavo, però è stato un periodo in cui me lo sono potuto permettere perché era un periodo in cui pensavo a tutt'altro. Però poi pensato, il luogo non ispira. Sì, ci pensavo anche abbastanza spesso. Ma era da solo in cella? Sono stato lungamente da solo, solo per pochi giorni con altri colleghi, proprio per il suo raffollamento. C'era... Colleghi che senso? Colleghi venuti, non colleghi politici. Due ragazzi, un polacco e un ragazzo di Acire. C'era anche un collega politico. C'è chi? Maruccio. Sì, ah, è sì. Stato nello stesso periodo. Comunque il sesso è la vera sanzione, proprio secondo la criminologia. Sì, devo dire, poi diciamo io sono... Beh, lei che ne sa, avvocato? Incline... Lei che cos'è? No, un divoratore di sesso? Studio no, no, no, però siccome mi piace come buon italiano, ah, ogni... non è appassionato... Ma... ma di che stiamo parlando, amico mio? Ho fatto la domanda giusta il signor Fiorito a Cruciani. Ha fatto proprio la domanda diretta, tac, tac, quella giusta. Ha chiesto il signor Fiorito, bravissimo. Ecco, lei 3 mesi in carcere, come si comporta? Ma questo muore, ma anche un giorno, ma in... Ecco, ci è mancato poco anche Fiorito, io. Fiorito, lei ha toccato la corda giusta del signor Cruciani. Questo io lo conosco da anni ormai, lo conosco da anni. Vabbè, lei come ha fatto lei? Perché lui, momento è stato l'ultimo dei pensieri e quindi non ho fatto non niente si è attrezzato di da solo? No, guardi, purtroppo non si potevano, nell'elenco dei beni da acquistare non c'erano né bambole gonfiabili né attrezzi particolari. È rimasto però il pensiero, la fantasia, appunto, la cosa che non fantasia, ci possa, come fanno gli incarcerati, come fanno? Non lo so, mi dispiace, ma è qualcosa che avrei voluto chiedergli, ma non sono arrivato a quel livello di confidenza. Ma che faceva? Si faceva da mangiare lei da solo o andava a mangiare con gli altri detenuti? Io ero sotto uno stretto regime dietetico, che poi non era affatto dietetico perché mi davano delle cose terrificanti da mangiare, e quindi per circa 2 mesi e mezzo non ho potuto cucinare. Poi ho cucinato, ma sempre con degli alimenti sotto controllo. Senta, io voglio capire una cosa, ma lei... Sono un buon cuoco, tra l'altro. Le piacerebbe fare di nuovo il sindaco di Anagni? Tra 5 anni? Ma guardi, è stata un'esperienza bellissima, nel senso che... Vabbè, quello lo sappiamo, ma le piacerebbe... È stata il sindaco, tra tutte le esperienze politiche, è quella più diretta, più coinvolgente. Lei vuole tornare a fare politica in qualche modo? Guardi, su questo c'è un siparietto che dura da qualche tempo. Me l'hanno chiesto il primo giorno che sono entrato in tribunale, ho detto no, il giorno dopo c'era scritto sì, Fiorito, voglio Vabbè, tornare. Vabbè, allora dica una parola definitiva, politica. Un'altra volta l'ho dovuto giurare. No, ma lei non deve giurare, deve dire quello che io sente. Io le rispondo quello che sento, che sì. La politica, se la fai o no, in questo caso lo scelgono anche i giudici, ma perché c'è l'interdizione. Per quello che mi riguarda lo scelgono i cittadini. E dunque se poi alla fine di questa vicenda ci sarà ancora la stima che hanno provato nei miei confronti, cosa che io ho sentito. L'amano ad Anagni? Ma io anche fuori, nel resto della provincia, credo di aver ricevuto attestati di stima e di amicizia fuori anche dall'immaginabile. Cioè i cittadini di Anagni la rivorrebbero di nuovo in sella? No, questo non ne ho parlato, secondo lei, secondo lei. Non è un mio pensiero in questo momento, no, però io penso di godere ancora della stima della stragrande maggioranza dei miei cittadini. E dunque non è escluso che una volta superata questa vicenda lei si possa ricandidare a sindaco. Ricominciamo dal basso. Guardi, diciamo, questo no? Non è può un essere mio assolto, pensiero eh? In questo momento. Può essere assolto, non ci io speravo in una eh? Soluzione, no. Ma cosa che non è avvenuta. 3 anni e 4 mesi invece. Poi in realtà l'interdizione diciamo diventerà efficace dalla sentenza in giudicato, quindi in questo momento volendo potrei candidarmi anche alla Camera dei Deputati. Certo. In teoria lei potrebbe candidarsi. Sì, certamente, come però hanno fatto gli altri. Non è certamente un mio pensiero in questo momento. Però non è escluso. Come tutti gli italiani... Penso che i 3 gradi di giudizio, mi confermerà il professore, quindi l'interdizione eventuale sarà che poi una pena accessoria obbligatoria per il tipo di condanna che ho avuto io. Magari al Parlamento Europeo, magari tra adesso anni. Faremo un partito. Beh, lì a preferenze, magari forse farete? Faremo un partito. Cioè che partito? Pensiamo... quanti voti potrebbe avere? No, scusa, un partito insieme Taormina in testa, Fiorito, veramente? No, ci abbiamo in testa di fare un lo partito. Lo dici adesso, veramente? Ma... Sì, lo dico adesso. Insieme? Sì, solo sì. Se vi candidate con noi. Io guardi. Ma ci sta avendo per il culo, è vero? No, lei... Si senta non preso per il culo, guardi. Allora, questa è la Zanzara 800240024, con noi Franco Fiorito, che è considerato uno dei grandi mostri della politica italiana, ma condannato a 3 anni nel senso estetico. Beh, penso. No, ma in sì, tutto sì. I sensi, lei è considerato, l'ho detto che io la che considero non... No, ci mancherà. Detto è considerato una sorta di simboli della mala politica, no, non c'è dubbio, volente sì. O nolente, giusto o non giusto. Questa è l'etichetta, questa è l'etichetta che lei ha. Cioè 26 milioni di euro non sono da mostro. 1 milione di euro restituiti sono da mostro. In che senso, scusi? Parlo di Lusi. Ah, Lusi, sì. Vabbè, ma anche lui è considerato un grande mostro. No, Lusi. No, non è un mostro. Se lei fosse a Roma, potrebbe bere Alemanno? Io sono a Roma. È residente a Roma. Quindi vota Alemanno? Residente a Roma, per sì. Chi vota? Io non ho votato in questo torneo. Ma chi vota le parole? Ma non credo che andò a votare neanche questa volta. Perché? Ma perché? Ma la campagna di Roma di questa volta l'ho trovata poco affascinante. Non dire. Vota per Alemanno? Ho votato la scorsa volta per Alemanno. Se dicessi, come ho scherzato con qualche vostro collega, che sostengo Alemanno, probabilmente gli farei perdere 2-3 punti immediatamente di consenso. Ma chi l'ha in detto? Questa cosa. Anzi, voterò per Marino, non così magari... Se vi interessa, io così non magari... voto proprio per Alemanno. Anche lei, ho capito. Ma lei che per fa? Alemanno mai. Che fa? È residente a Roma lei? Io sono residente a Roma da tanti anni, Io pensavo Roma, che fosse... io sono di padre romano e di madre nagnina, mio padre non è... Pensavo che lei fosse residente a Nagni, tu, sì, per sì, cui no. Voterà? Non mi non sono mai votato no, neanche da solo, questa è una caratteristica, nei miei voti che ho sempre superato determinati record della mia vita non c'era mai stato il mio voto. Quanti voti ha secondo lei? Quanti voti potrebbe oggi quanti voti potrebbe prendere? Non ho mai pensato di fare il politico nella mia vita perché è successo casualmente, però calcoli che io al liceo ho preso 300 voti su 350 studenti, da sindaco ne ho presi 7.000, cioè il 60% al primo turno. Alla provincia ho preso il 42% con Alleanza Nazionale, che fu il risultato più alto d'Italia. Poi 17.000 con Alleanza Nazionale alla regione, sono stato il più votato della provincia e poi sono stato il più votato alla regione. Però sono successe delle cose. Però c'è una differenza, che io sono stato sui giornali per una serie di cose che non mi appartengono, e dalle ostriche allo champagne, che si è dimostrato facilmente. Io sono stato condannato solo per i soldi che mi hanno dato in qualità di politico, non per viaggi e altre cose che erano completamente inventate. Dunque io sono convinto che chi mi conosce sa benissimo che non ho mai fatto quelle cose. Secondo lei quanti voti quanto vale oggi? Penso uno più di ieri. Sì, uno più di prima. Sì, cioè, sì. 30.000 voti li vale sicuro. 27.001. 27.001. Sì, cioè, oggi se lei si presentasse prenderebbe 30.000 voti facile. Ha aumentato i voti. Mi rivoterebbero almeno le stesse persone che mi hanno votato. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Vabbè, sono ma d'accordo. Che c'entra? Io abito. Sono d'accordo. No, perché ho il ho il polso della situazione. Lei lo voterebbe, Fiorito? Io, certo che lo voterei. Io ho il polso della situazione, certamente non quanto lui, perché vivo in quella zona e conosco la gente, la quale per esempio è indignata perché soltanto Fiorito è stato messo, diciamo così, alla berlina come emblema della mala politica, quando ci sono molti altri nella stesso consiglio regionale. Ma faccia i nomi, tipo chi? Li può fare lui i nomi. Noi li abbiamo consegnati all'autorità giudiziaria, poi l'autorità giudiziaria chi deve farli. Chi è quello colpevole almeno come lei? Faccio un nome. Guardi, io, almeno come lei. Diciamo, non ho l'abitudine, non ho mai fatto il delatore in vita mia. Io ho subito una delazione, cioè quando un collega è andato alla procura, che poi tra l'altro oggi si ritrova indagato, ed altri hanno fatto la stessa cosa successivamente. Ma io le faccio un rapido calcolo. Il bilancio del consiglio regionale è lo 0,03% di tutto il bilancio regionale. E allora? Sono circa 100 milioni di euro all'anno. Lei calcoli che 30 vanno tra stipendi e spese fisse, gli altri 70 vanno per i costi della politica. Per due anni di legislatura parliamo di solo il Consiglio regionale, 140 milioni di euro. Io ho avuto a che fare con circa 1 milione di euro che ho restituito completamente. Ma non era un po' drogato dal denaro? No, ma sto dicendo... No, guardi, ero drogato dalla politica, questa è una definizione giusta. Cioè, per me accumulare i fondi per una campagna elettorale significava crescere politicamente e avere la possibilità di fare una campagna elettorale più grande. Ma secondo l'accusa, lei ha comprato anche cose per lei? Lei faccia una cosa. No, è stato assolto sbaglia. Da tutto. Questo, ecco, vede, qual è la difficoltà? I tre anni, i quattro mesi più valgono i cinque perché il peculato, si faccia spiegare. No, lo so. Oppure, lo so. Se vuoi, ci possiamo dare del tu. Il peculato, come ben spiega il professore, è un reato istantaneo, quindi io sono stato condannato perché ho preso i soldi che mi sono stati dati e li ho messi in dei conti. Ma perché li ha messi nei conti? Perché da quei conti poi li avrei utilizzati troppi per la campagna conti, elettorale. Pure in Spagna, perché i conti in Spagna? Quella è stata una casualità. Nel senso come una che... casualità? Non è che metti i soldi, però. No, non era una scelta volontaria, perché benissimo, tutte le spese che ho fatto io sono state tracciate, cioè c'era scritto l'articolo di legge e le cifre, non solo, ma io l'ho messo in bilancio come emolumenti che come capogruppo avevo preso, cioè non è che li ho nascosti, li ho scritti all'interno del bilancio che è stato per due anni approvato. Certo, la cosa che mi è contestata è dice no, non li dovevi mettere su altri conti rispetto a quello appunto. Ma qui nasce un grande paradosso, perché il babbeo che ha fatto la festa con i maiali e quello che ha mangiato le ostriche e lo champagne hanno fatto bene, perché potrebbe essere velatamente un'attività politica. Io che li ho conservati per fare la campagna elettorale sono il grande colpevole. Insomma, questo più voi vorrei un giudizio su questo tipo di giudizio. Tu lo sai che lui andò a tirare le monetine a Craxi a Rafa? Questa, no, me l'hanno davvero. In onda uscì questa cosa. Sì, da Mentana. Me ne sono pentito. Di dirla? No, non di dirla. Si è pentito? Io ho fatto una lunga trafila di militanza. Perché lei era quindi... nel MIS, no? No, perché poi nel tempo ho imparato ad apprezzare gran parte dei politici della Prima Repubblica come qualità di capacità. Quindi Craxi è stato un grande statista? Non so se sia stato un grande però statista, ma è stato un grande politico. Si è pentito di aver ritirato una monetina? No. però in quello, come, in quel momento prima, un po' pentito, ah no, dicevo, mi sono pentito di averlo detto come qualcosa di meritorio, ma in questo caso, diciamo, nel tempo ho cambiato il mio giudizio su quello. Dunque, sei un po' pentito di essere stato là, vabbè, diciamo, cioè, si sente come Craxi in piccolo, ma l'ho preso, no, magari l'ho preso con qualche monetina, non credo. Beh, non credo, ma voi eravate circondato in Raffaele, e gli urlavate Bettino, Bettino, ridacci il bottino. Sì, poi è uscito coraggiosamente, perché com'è che dicevate Bettino, vuoi anche queste, Bettino, vuoi anche queste, com'era il coro? Circa era... No, lei lo sa benissimo. No, c'erano più voci. E poi in realtà poi noi facevamo pure la stagione di Mani Pulite davanti alla camera con i guanti bianchi. Lei era un bel fascistone all'epoca, Fiorito. Ma guarda, il fascistone è antiquata come cosa. Era un bel fascistone. Giovane moderno di destra. No, un bel fascistone. Ce l'ha avuto qualche un giovane moderno di destra. Qualche busto del Duce ce l'aveva lei. No, non sono affezionato ai Cimeli, anche se in questo caso ho un'opinione simile, migliore di quella di Craxi. Di Mussolini. Ma perché è una vergogna? Ma fu un grande statista Mussolini. Secondo me è una vergogna. Un grande statista. Sì. Cioè, in che senso? Oramai non faccio più il politico, lo posso dire. No, secondo me il progresso civile e sociale di quell'epoca fu un modello importante della cultura, della socialità, del progresso sociale dell'Italia. Poi, cioè, fece grandi cose. Se mi chiede, insomma, i grandi difetti, quelli sono gli stessi che, su cui esprimere. Però ebbe anche grandi meriti. Ma io, guardi, non lo dico su Mussolini, ma no, come Fiorito, persona, su, ma ma guarda, io, basta che pensate al sistema cooperativo, al sistema pensionistico italiano, alla perché se è una dittatura, che c'entra? Non è che chi si valuta, frega che è una dittatura. Ma infatti, sulla dittatura io non do un giudizio. Questa non è dittatura, questa qua. Questa non è dittatura. Scusi un attimo, Fiorito. Parlavo della politica sociale, però è un'opinione personale. No, ho capito. Lei dice che è stato un grande statista, va bene, d'accordo. Ma la cosa che voglio capire, ci vorrebbe Mussolini anche adesso, cioè un uomo forte. Un uomo ma forte. Non credo che potrà mai funzionare. Io credo che quel tipo di civiltà politica sia finita. In un mondo di una comunicazione come quella che abbiamo adesso, incontrollabile, e soprattutto di una. E capacità degli elettori di scegliere con repentina velocità e cambiare, non credo che possa esistere più nessun regime. Si pente regime. Di una cosa che ha fatto, cioè, la gente la considera una specie di, cioè, i partiti che prendono un sacco di soldi e li usano, però, lei dice di no, ovviamente. No, non è che lo dico, no, l'hanno d'accordo, detto giudice, vabbè, comunque li utilizzano, si fa fare un esempio. Li utilizzano per i gruppi parlamentari. Ma io sono stato sui giornali per aver fatto viaggi alle Maldive, viaggi in Monte Carlo. Viaggi li ha fatti, però. Ma assolutamente a spese mie. Ha stato sbagliato o no? Verificato. Qualche errore che ha fatto? Però me lo faccio dire. Drogato di perché tutto quel denaro. Mi hanno sequestrato la Jeep, che poi adesso mi dovranno ridare. E la casa al mare sembrava costruita abusivamente, pagata. Si pente di una cosa? Sì, di aver fatto il capogruppo di un gruppo di idioti. Perché idioti? Ma perché io non mi trovavo quelle persone. Una cosa, io ho avuto un gruppo fatto da poche persone intelligenti e di altri che poi sono quelli che mi hanno sfiduciato, che non avevano niente a che fare con la qualità politica che esige un consigliere regionale, che venivano da un listino in cui sono stati messi marito, moglie, parenti, nonne, zie, e che quando hanno avuto a che fare con qualcosa di politicamente più grande di loro hanno reagito solamente annuendo alle richieste di qualche RAS politico della zona. Insomma. Senta un attimo, Berlusconi l'ha mai sentito? Sentito lei su questa storia? Io Berlusconi no, non l'ho sentito. Non le ha mai dato solidarietà? Una telefonata? Ma guarda, io penso di essere l'unico caso del mio partito dal quale mi sono autosospeso immediatamente. Anche la volontariamente, anche usò parole che non è stato difeso. Lei ogni giorno vede la persecuzione dei giudici. Io che penso di essere l'unico esponente del PDL che è stato attaccato molto di più dai propri colleghi di partito. La Santanchè, per esempio. Anche la Santanchè, ma la Santanchè non credo che l'abbia fatto spontaneamente. Forse qualche piccola spinta l'avrà avuta, così come l'avranno avuto altri colleghi. Da che chi? Ho incontrato, chi? Ma non lo so, ma io ho visto che tutto il partito mi attaccava in una maniera così forte. Sarà che forse intanto ho rifiutato di avere un avvocato del partito, ho scelto il professor Taormina. Ma che lei, non ha avuto grande simpatia. Io sono iscritto, mi sono autosospeso e diciamo, però se mi sento se dovesse giudicare, beh, io lo sono, nel senso che lo sono adesso, ma diciamo non ho grande stima in questo momento della dirigenza. Per Berlusconi del mio per Berlusconi sì. Ma Berlusconi sicuramente ho grande stima politica. Perché non volevano che lei lo difendesse, capito? Non volevano che lei lo difendesse. Chi le volevano dare? No, il nome non lo so, però mi fu detto dai dirigenti del partito. Mia madre la saluta tanto. Lei ha avuto occasione solo quando sono uscito dal carcere di risentire Angelo Dabbari, come si chiamava quel signore? Quello dopo. E la saluta l'aveva un po' gabbata quella sera lei, perché mia madre, però non in maniera qualche non piccolo problema di salute, insomma piccolo per modo di dire, però non sente male. Bene, quindi sì, mia madre. Grazie, molto giovane. Grazie a Franco Fiorito, grazie di essere stato con noi. Pubblicità. Non mi molesta il moschito. Siamo qui, cari ascoltatori, ho trattenuto Franco Fiorito, il mostro secondo gli italiani per l'appropriazione di denaro. Lui ovviamente dice il contrario, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi per peculato con reato istantaneo, ma vedremo il seguito processuale. L'evolversi del processo. Però ci ha detto una cosa interessante nell'intervallo. In realtà l'unica spesa per i fatti suoi, diciamo, no? L'unica spesa personale che è stata fatta con i soldi del partito, con i soldi per i gruppi parlamentari, qual è stata, Franco Fiorito? È questa famosa caldaia che io di certo non ho ordinato, acquistata dal mio segretario, che è stata inavvertitamente pagata con questi soldi. Quanto? 1800 euro, che cioè, allora, è il doppio del prezzo normale. 1800 euro spese economo per la sua caldaia di qua di casa o della casa al mare? Di una casa, solo di quella al mare, sì. Chi l'ha speso? Lei si è installato la caldaia a sua insaputa? Beh, io in realtà avevo dato incarico al mio collaboratore di comprarla e di installarla. Diciamo, io sono compare di un venditore di caldaie che mi ha fornito le caldaie per tutta casa. Cioè, per cui in questo caso inavvertitamente ha preso i soldi dal suo conto. Beh, siccome lui aveva i soldi nel suo conto corrente. Io l'ho scoperto dai giornali, però diciamo questo ho ottenuto e l'ho anche già rifusi quei soldi, nel senso sì, però lei teneva i soldi suoi insieme a quelli del partito, questo è vero, i suoi soldi no, del partito, anche questo è sbagliato. Quanti conti avevo su dei conti diversi? Quanti erano sti conti? Erano quattro conti, sì. Una cosa pazzesca, vabbè, che quattro conti, però mi faccia dire il paradosso per cui sono rimasto, che è pazzesco, di tutte le cose conti, i viaggi, sì, le macchine, sì, i beni di lusso e le fesserie varie che sono state scritte, nessuna di queste all'esito dell'indagine è stata risultata pagata con nessuna lira di soldi pubblici, solo la caldaia, nella quale io posso dimostrare, ho almeno quattro testimoni che non ho mai detto di ordinarla a spesa del partito, e mi sarà facile, penso, in appello. Lei dice 3 anni e 4 mesi per una caldaia, questa è la cosa, 3 anni e 4 mesi, però si può dire così per l'istantaneità che lei giustamente ha detto, cioè mettendo i soldi su un conto, era come se me ne fossi indirettamente però appropriato. si può sintetizzare dicendo ho preso 3 anni e 4 mesi per una caldaia, tra le cose che hanno fatto scalpore per gli italiani, solo per quello 1800 euro di caldaia, esatto. Però anche sul suo collaboratore, perché ha preso i soldi dal suo, cioè ha accesso al suo conto così, sì, il suo collaboratore? No, è differente, io ho spiegato ai giudici, il segretario, io non avevo accesso al conto, solo il collaboratore aveva accesso al conto, io non ho mai avuto accesso a nessun conto corrente. Grazie a Franco Fiorito, grazie. Allora, grazie a voi. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, ritorno chez toi, je fais la sieste moustique. Siamo qui, 22 minuti, la Zanzara, Massimo da Milano, buonasera Massimo, era con noi prima, no? Sì, sono qua. Vada, senti, vada. Volevo dire a Parenzo, chi dovevamo votare? Questi signori qua? I Fiorito, i Taormina, i Bessito, i Polverini, tutti quelli dell'altra parte? Allora, cosa non vuole? Continuare a rompere le scatole a Cruciani che ha votato Grillo. Chi dovevamo votare? Ci hanno portato. Ma che c'entra Taormina adesso? Cosa c'entra Taormina? Non ho capito cosa sì, dice. Ma parte del PDL, no? No, ma quando mai è uscito Taormina, un sacco di anni è uscito dal PDL. Ha governato, è stato al governo, ha fatto leggi, ma anni fa. Ha fatto tante cose che ci hanno portato a questo livello. Beh, mo adesso Taormina è colpevole del disastro dell'Italia, adesso francamente no, non Massimo, dico che è corresponsabile insieme a tanti. Ma quale corresponsabile? Guardi che ci sta guardando dietro il vetro della regia. Il passato non conta niente, siamo arrivati a questo livello per qualcuno, no? Adesso non si può dire che Taormina è responsabile, è colpa sua, chiaramente, però vabbè, io cercavo di sostenere il fatto che Parenzo continua a dire a te che hai votato Grillo, hai mandato questi. Questi bravi ragazzi dimostreranno qualcosa, non lo dimostreranno. Meglio sempre della vecchia classe dirigente. Cioè, meglio i grillini della vecchia classe dirigente. Vabbè. Grazie. Ugo da Bolzano. Io mi è sfuggita una cosa, ma il vero appellativo di Fiorito qual è? Perché questo mi sono di maniera appuntato qui. Erbatman non è vero. Lo trattengo ancora, è là dietro. Adesso, infatti adesso non è quello, entrare. Perché Federico Mello, sì, che collabora tra l'altro a questa nuova trasmissione della Guerra dei Mondi, che faremo su Rai 3 il venerdì sera. Chi se ne fotte? Federico Mello mi segnala che non è vero che ad Anagni lui è soprannominato Erbatman. Sì, cioè è sa. Una puttana. No, ma mi ha proprio detto, guarda. Ma l'ha già detto anche lui. È una. Sì, però la conferma anche Mello. Cioè, il fatto che lo dica Mello, secondo Mello, io è una brava persona, però. Avvalora la tesi. Allora, è Francone, Er Federale, Er Turco o Er Batman? Qual è? Er Federale. Adesso lo faccio rientrare un attimo. È Er Federale. Rientri, Er Federale. Tanto adesso è libero, non deve rientrare in cella, così. Ugo da Bolzano intanto, Ugo. Pronto, buonasera. Sì. Io volevo tornare al discorso del ministro Idem, che avete fatto all'inizio della cittadinanza, gli atleti per meriti sportivi, ma prima di preoccuparsi della cittadinanza, perché non diamo agli sportivi mezzi, impianti, che possano raggiungere. Ma chi se ne frega adesso della politica sportiva in Italia? Chi se ne frega della politica sportiva in Italia? Gli sportivi si interessano piuttosto che interessarsi. D'accordo, ci vorrebbero più mezzi, più impianti. Fiorito personalmente. Sì. Fiorito, qual è il suo soprannome? Non ne ho mai avuti? Mai avuti, manco uno. Ma cos'è sta chiavetta che c'ha? Cos'è sta chiavetta? È un regalo della mia fidanzata, la chiavetta di Batman, se volete immortalarla. Ma come la chiavetta di Batman? Mi sono affezionato al soprannome, anche se è completamente inventato. C'è una chiavetta USB di Batman? Sì, USB, è bellissima, si illumina quando la metti nel computer. Ma è una cosa pazzesca. È bellissima, sì, sì. Scusi, saluto la mia fidanzata. Ma adesso non ho fidanzata. Chi è la sua fidanzata? Come si chiama? Già prima. Non è quella vecchia che la dico come si chiama, altrimenti la salgo. No, dedichiamole una canzone. Dedichiamole una canzone. Una canzone. Sì, il cazzo delle dedica alla sua fidanzata. La cura di Battiato. Com'è? Come fa la cura di Battiato? Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Basta. Supererò le correnti gravitazionali. Lo spazio e la luce. Per non farti invecchiare. Ma sai che io non ho mai cantato? Ma sai che io non ho mai cantato una persona condannata in primo grado? Stavo pensando a questo, che non mi ha mai capitato. Ti accusano di concorso esterno in Fiorito. Adesso mi accusano di concorso esterno in Fiorito. Ecco Parenzo che canta con un condannato in primo grado. Mettetemi la cura, mettetemi la cura. Sì, lei canta benissimo, Fiorito. Ho scoperto che lei canta benissimo. Come si chiama la fidanzata? Perché è abituata ai comizi, capito? È abituata dalla Zanzara Radio 24 Franco Fiorito. Canta la cura. No, anzi, la presentazione andrebbe fatta così, secondo me. Il condannato Franco Fiorito, virgola, condannato in primo grado a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, a 3 anni di reclusione e 4 mesi provvisoriamente. Canta in esclusiva sulla radio di Squinzi, ma alla Zanzara, la cura del signor Battiato, già assessore del signor Crocetta. Ecco, questa è la presentazione adeguata. Ma la devo ricantare. Vada. Sopra Battiato. No, adesso abbassiamo. Vada. Non mi ricordo. Intanto faccio solo. Canta Fiorito. Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Vada. Dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, con le ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Franco Fiorito, la cura di Battiato. Controtempo. Pubblicità. E Batman. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Siamo qui, 800240024, sempre con Ugo Bolzano, sei ancora con noi, Ugo? Sono ancora qui. Allora, mi scusi, vada. Niente paura. E poi volevo chiedere una cosa, il ministro Kienge, non si dice Kienge, non Kienge? No, si dice Kienge, me lo ricordo. Appunto, allora, Kienge. Il dottor Parenzo, che dà dell'ignorante, cambia il cognome al buon anno... si faccia un attimo, porti un attimo pazienza, visto che anche lui ha contribuito a pronunciarlo male e a diffondere una mala informazione. Sì, lo pronuncia sempre Kienge. Altra cosa. Io ho detto che siccome Buonanno stava ironizzando, dicendo non me ne frega di come si chiama, e giocava su cose che io non ho fatto, posso aver sbagliato ma una volta la pronuncia, ma poi l'ho corretta e non ho detto con disprezzo, come potrei sbagliare il cognome di un italiano, come potrei sbagliare qualunque cognome, ma siccome lui invece ha ironizzato sul cognome straniero, allora io mi sono permesso di dire Buonanno. Fine della trasmissione, grazie, arrivederci, no, altra chiamata. No, scusi, scusi, aspetta. No, no, basta, è passato troppo. Il problema, mi annoia, lei mi annoia, lei mi annoia. Mi, posso dire che mi annoia? Mi annoia, altra chiamata, grazie. Posso dire che Luca la sua lucidità di analisi non è propriamente... Ma infatti non ha detto di essere lucido. No, non ho detto. No, visto che si permette di dare giudizi, sputar sentenze così, no, almeno dovrebbe essere lucido. Ho detto che mi annoia quando mi attacca su una cosa sciocca come questa, perché... Cambiamo buon argomento. Anno. Prima, mentre parlava il dottor Cruciani per il processo Cucchi, parlava che prima di sputare sentenze, anche in questo caso, bisogna essere a conoscenza dei fatti, bisogna avere delle prove. Lei subito ha tirato in ballo i processi di Berlusconi e il dottor Cruciani stava mantenendo una posizione lineare, cosa che lei non ha fatto. Per giudicare e condannare bisogna avere le prove. Sì, io ho detto questo, ho detto in realtà una cosa, un principio generale, una sensazione che ho ogni volta che c'è una sentenza che riguarda le forze dell'ordine. Poi è vero che negli stati di solito le forze dell'ordine vengono protette, tra virgolette, di più rispetto ai cittadini normali, perché c'è un senso di appartenenza, perché il monopolio della forza ce l'hanno le forze dell'ordine per tanti motivi, dunque spesso se la cavano, diciamo la verità. Questa è un discorso che si può fare per qualsiasi paese. Però perché ogni volta che c'è una sentenza che riguarda le forze dell'ordine coinvolte c'è un'assoluzione, si grida all'indignazione o si grida alla vergogna? C'è un motivo anche qui, no? Cioè, ci sarà un motivo. Soprattutto quando c'è una soluzione e soprattutto quando la soluzione riguarda persone in divisa, questo mi pare evidente. Domani sentiremo vergogna, lo Stato ha ucciso un'altra volta Stefano Cucchi, perché non basta la condanna, chi è stato condannato non mi ricordo nemmeno, gli infermieri, chi è stato condannato, no, i medici. Allora, io dico no, aspetta una cosa, noi non sappiamo i dettagli per cui non possiamo parlare, alcuni dicono che le prove sono inoppugnabili, altri no, nei confronti degli altri, nei confronti degli agenti, nei confronti degli infermieri. Io dico solo una cosa, non basta la colpevolezza dei medici, no, in Italia sicuramente ci deve essere anche da parte di quelli che non sanno niente nei dettagli, ci deve essere sicuramente un agente penitenziario colpevole, un agente di polizia colpevole, hanno un carabiniere colpevole, hanno sospeso le pene eccetera, ai medici e assolto i poliziotti. Allora la questione non è nel merito, per me la questione è molto semplice, cioè o le sentenze si accettano e si criticano in sede giudiziaria oppure non si accettano. Siccome ultimamente lo show della politica, e Giovanardi lo ha dimostrato ancora una volta, c'è l'idea di strumentalizzare comunque pro domo propria le sentenze, lo si fa con i processi di Berlusconi e lo si è fatto col caso Cucchi, per cui c'è Giovanardi che sta con la polizia e a prescindere dal processo difende. E sul caso Berlusconi uguale, tant'è che un deputato della Repubblica, tal credo Santanché, come si chiama? Santanché. Ecco, non mi ricordavo più, tal Santanché, si permette di dire addirittura che non paga più le tasse perché c'è una persecuzione nei confronti di Berlusconi. Dico allora che la sorella di Cucchi e la mamma di Cucchi dovrebbero fare la stessa cosa se un deputato della Repubblica si permette di dire questo. Ugo da Bolzano, Ugo. Ugo, allora come vuole concludere? Prego. Deve concludere, che deve fare? No, basta, io ero... Arrivederci, Massimo da Genova. Massimo da Genova. Massimo da Genova. Pronto? Dica. Sì, buonasera, signor Cruciani. Sì. Io ho sentito prima, circa mezz'ora fa, che si è inalberato sulla situazione appunto di Cucchi, dei giudici, giusto, che ci vogliono le prove, ed è sicuro che con le prove le situazioni sono... precise e perfette. Cioè in che senso? Ma a parte che deve chiudere la radio perché altrimenti sentiamo il ritorno. Ecco, allora, per la centesima volta, su. Mi perdoni. Allora lo faccio tutti i giorni, lei lo farà lavoro, io no, per carità. Sì. E allora? Il concetto che mi ha fatto proprio imbestialire è proprio una cosa che a lei ha detto, cioè ma i giudici da chi sono? Diciamo così. No, abbia pazienza. Lei non sa che cosa dire, questo è il punto. Lei non sa che dire. Le forze dei giudici? Chi le fa? Le forze dell'ordine. Ma per forza che loro sono pro forze dell'ordine. in ogni caso per le istituzioni. Vabbè, senta, allora, chi fa legge, chi fa legge, mi scusi, allora lei mi deve dire, non hanno voluto fare indagini giuste, hanno fatto delle indagini taroccate, non hanno portato ai magistrati le prove vere del pestaggio subito, e allora lei mi deve dire, mi deve fare questo discorso qua, cioè, però anche per questo bisogna avere delle prove, cioè bisogna avere le prove che la polizia ha indagato male, non ha voluto portare le prove ai giudici, eccetera eccetera. La frase di Giovanardi, la frase, come dire, sotto accusa, e questa è l'unica dichiarazione che ha fatto Giovanardi oggi. Il Tempo è galantuomo e ha fatto giustizia di pregiudiziali ideologiche enfatizzate dai media, che attribuivano responsabilità agli agenti di custodia per un pestaggio mai avvenuto. Secondo Giovanardi, il pestaggio non sarebbe mai avvenuto. In realtà, nel passato, Giovanardi, sulla vicenda Cucchi, ne ha dette di cotte e di crude. La zanzara che punge nel vivo, ripiena di sangue. Giovanni da Caserta, buonasera, Giovanni. Ciao, buonasera Cruciani, sei grande. Dica. Allora volevo dire una cosa, sono proprio mortificato come italiana, come persona anziana. Cioè io ritengo che il governo non doveva assolutamente fare ministri quelle due ragazze che non sono italiane. Non sono italiane. Ma lei dice la Idem e la Chienghe. Esatto, non sono italiano. Ma hanno il passaporto italiano. Uno ha vinto le Olimpiadi per noi con la bandiera italiana. Bravo. E l'altro ha preso è cittadina italiana, Giovanni. Però quando loro dicono che sono italiano, io sono africano. Vabbè, ma lei è un cretino. Lei è un cretino, ma lei è africano, lei è un cretino. Ma lei è un cretino proprio. Perché io sono africano. Un ministro della Repubblica non doveva assolutamente essere rappresentato da persone che non sono italiane. Sì. Scusi, il signor Cruciani finalmente le ha ricordato che un atleta ci ha fatto vincere le Olimpiadi con la bandiera italiana, sventolando la bandiera italiana. Sventolando la bandiera italiana sotto i nostri vessilli della sacra patria. E lei magari ha pure esultato quando vinceva le medaglie. La signora Idem. Che significa sventare la bandiera italiana e che ci ha fatto venire? Perché è italiana. È italiana. Invece che cos'è? È tedesca. Una persona che ha la cittadinanza italiana. È una persona che ha la cittadinanza italiana. E invece che cos'è? Tedesca, che cos'è? No, che cos'è? Quell'altro è africano, quell'altro è tedesco. Cioè. Quella è africana. Ma lei di dov'è? Scusi, Giovanni, di dov'è? Io sono di Caserta. E qualcuno potrebbe dire che Caserta non è Italia. Se qualcuno le dicesse Caserta non è Italia. Detto, qualcuno l'ha detto. Nel passato qualcuno l'ha detto Caserta non è Italia. Qualcuno l'ha detto, figurati. Vabbè, Giovanni, arrivederci. Grazie. Gaetano da Salerno, sempre Campania. Gaetano. Sì, buonasera. Giusto, voglio rispondere a quel casertano che... Cioè, ma si può dire una cosa del genere? L'africano, non africano? Ma stiamo scherzando, è roba sua, è campano pure lui, il casertano. Vabbè, non ci sono alcune zone del casertano che non sono, sono africane, cioè sono banco, cioè, ma che sta scherzando? Comunque, a parte questa cosa, sì. Ma Fiorito è veramente così convinto che noi tutti gli italiani sono così stupidi? Cioè, non ho capito, cioè... Capito, lui dice di non essersi messo in tasca nulla, c'erano dei soldi che faceva girare e poi non si è messo di suo, non si è messo in tasca secondo la procura, secondo il tribunale. La cosa che proprio mi fa arrabbiare è proprio quella di sottovalutare l'intelligenza delle persone. Voglio dire, tu hai fatto quello che hai fatto, perfetto, giravano tanti di quei soldi, piovevano tanti di quei soldi, e dice peccato non utilizzarli, no? Magari tanti non servivano a nulla, tanti finanziamenti, tanti soldi che sono arrivati, molti non servivano a niente, beh, le usati per fare i fatti miei. Ma almeno stai zitto, abbi la decenza di stare zitto, la dignità di stare zitto. Però scusi un attimo, qui la questione è molto semplice. È stato accusato di essersi, attraverso i soldi del partito, di avere... comprato una macchina per sé, aver fatto delle spese eccetera. Lui dice no, personali erano nei conti, in quattro conti che ho aperto, quei certo. Soldi non li ho spesi per quelle cose, ma le spese che ho fatto caldaia. Tranne per una caldaia, una soldi caldaia di 1800 euro, che cos'è, d'oro la caldaia? Comunque, beh, effettivamente un po' cara, però esistono pure delle caldaie da 1800 euro. No, va bene, certo, tutti abbiamo caldaie da 1800 euro. Grazie Fabio da Pistoia, abbiamo quattro conti all'estero. Grazie Gaetano. Prima di Fabio da Pistoia voglio farvi ascoltare, state ben attenti, quest'uomo che parlerà adesso si chiama Diego Volpe Pasini, caro Parenzo. Ti voglio far svegliare che stai dormendo. Diego Volpe Vasili, il quale oggi ha detto: senti, se condannano Berlusconi, manifestiamo contro i ministri del PDL per fare cadere il governo. Senti, Napolitano deve rispettare il patto. Cioè, se condannano Berlusconi, entrano in azione i militanti, i soldati dell'esercito di Silvio con un vero e proprio piano di guerra. Volpe Vasili. L'esercito di Silvio, ma è una cosa che fa ridere i polli, dai, su. Lo so, ma la sai che i polli ridano, tu la sai che i polli ridano. Tanto i polli ridano, ma qualcuno deve prendere quattro sberle, sarà il caso che cominciamo a dargliele. E chi sarebbero le quattro sberle? A chi le vuoi dare? Ti faccio un esempio. Non è possibile che a tre comizi su tre, dove Berlusconi va a parlare alla sua gente, intervengano qualche decina o qualche centinaio di facinorosi dei centri sociali o ma che vuoi fare, scusa, e che vorresti fare con questi facinorosi dei centri sociali, posto che siano dei facinorosi dei centri sociali? No, vorresti... sono facinorosi perché li abbiamo visti, li conosciamo. Vabbè, che vuoi fare con questo esercito di Silvio? Che semplicemente cercare di fare in modo che il presidente Berlusconi possa fare i suoi comizi in santa pace, come è giusto che sia in un paese civile dove noi non andiamo mai a disturbare i comizi di altra gente. Vabbè, ma questo ci pensa la polizia, no? Però no, non ci pensa la polizia, perché la polizia, come sempre, deve usare il bastoncino perché non può. Non perché può, invece voi come esercito di Silvio che cosa volete usare? Ma insomma, se gli dai quattro sberle non è che cambia, cioè, molto. Volete, no? Fare allora la guardia azzurra, come una volta, no, c'era la ronda azzurra. Vogliamo difendere primo il diritto del nostro presidente a fare attività politica sul nostro territorio con tutta la sua dignità. Secondo, il sano e normale svolgimento delle manifestazioni. Ci sono i servizi di ordine della CGIL, ma tu stai dicendo che la polizia non serve a un cazzo, cioè, no, nei comizi a difendere il legittimo diritto di Berlusconi di parlare non serve a un cazzo, infatti lo ha dimostrato in tre comizi su tre. Vabbè, ho capito, però stai esagerando, cioè voi volete fare una sorta di come il servizio d'ordine della CGIL volete fare. No, servizio d'ordine della CGIL è una cosa, noi vogliamo semplicemente dire... L'hai detto prima, come il servizio d'ordine della CGIL. La CGIL c'ha un suo servizio d'ordine, bene, il PDL non ce l'ha, va bene. Volete fare il servizio d'ordine del PDL. Dico soltanto che io credo sia giusto che le centinaia, le migliaia di persone che vogliono legittimamente difendere un nostro diritto, che è quello di avere il nostro presidente, sentirlo parlare, poterlo votare. E dunque che volete fare concretamente? Mettervi a fare un cordone intorno alle cose? Che volete fare? Andare con una divisa? Smetterla di essere insultati, di vedere le nostre bandiere bruciate, di venire presi a sputi e insulti senza mai reagire. E come reagisce? A contrattaccando con i reggimenti? Come fai a reagire? Ah, mani libere, no? Mani aperte. Quattro sberle non gliele toglie nessuno. Ma quelli vi tirano i sassi, alcuni, sono pericolosi. Ma chi se ne frega, gliele riteniamo. Vabbè, è ora di finirla. Vai in guerriglia urbana, Fratelli. Ma che guerriglia urbana? È ora di finirla. È arrivato il genio. Guarda, mancava veramente il coglione la sera. C'è sempre quella zecca lì. C'è sempre la zecca, sì, come dice Volpe Vasili. Sì, caro Volpe Vasili, caro Diego Volpe Vasili, la zecca c'è sempre, caro genio, caro statista, caro uomo dell'esercito di Silvio. Camilla da Perugia, buonasera. Salve, buonasera. Volpe. Dica. Volpe. Io non volevo parlare di politica. Lei può parlare di quello che vuole, cara Camilla, con quella voce può parlare di quello che vuole. Mi volevo riferire alla telefonata del regista Squitieri dell'altra sera. Sì, io ho sentito lui che ha parlato della sua esperienza, del suo male. E ho fatto questa riflessione: non è che chi parla con il tumore e non lo vince non è stato convincente, tutti i malati vorrebbero guarire. Lui mi è sembrato un po' leggero nell'affrontare questo discorso, nel dire io l'ho domato, perché penso che le persone malate che non riescono a reagire a questa cosa non è che non lo vogliono. Camilla, io la invito a riflettere su un fatto: qui non stiamo a essere benessere condotto, come lei sa, dalla bravissima signora, anzi Nicoletta Carbone. Questa qua è La Zanzara, è un'altra trasmissione in cui non bisogna spiegare tutta la verità sul cancro. No, abbia pazienza. Ma è La Zanzara, se il signor Squitieri dice che non vuole pensare alle malattie perché se tu non ci pensi non ti arrivano, io non è che lo vado a contestare di scienza, perché è un'altra trasmissione, ha capito? Cioè, questo è il punto. Medicina Oggi. Cioè, se lei vuole sentire delle spiegazioni razionali, stupende, meravigliose. Mi era sembrato solo così un un atteggiamento un po' troppo leggero su un ma argomento. È leggero, ma è normale che sia leggero. Siamo alla Zanzara, non siamo d'accordo. A essere benessere. Ma, no, ma io lo dico con grande infatti, rispetto. Come dire, la signora mia omonima che aveva parlato prima e vi aveva anche un po'... no, criticato nei toni, nei modi, e io penso appunto uno non ascolta se non vuole ascoltare, io guardo al contenuto e non al sì. modo in cui magari va bene. Quindi Camilla, ecco. La ringrazio moltissimo. Che Fabio da Pistoia. Sì, buonasera. Salve. Vada. Io volevo intervenire brevemente riguardo la questione della partecipazione del Presidente della Camera Boldrini e del Ministro delle Pari Opportunità Josefa Idem al Gay Pride. A me mi pare una cosa assurda, sarò scontato, però che si debba dare, attenzione, non sono un omofobo, ma che si debba dare tutto questo risalto a delle persone che amano lo stesso sesso mi pare assurdo. Allo stesso ma dove tempo, si dà tutta questa, scusi un attimo, scusi un attimo, dove si dà tutta questa rilevanza o come tutto questo spazio a persone che dello stesso sesso, scusi, dove lo vede? No, lo vedo quotidianamente. Perché, ma quotidianamente perché... dove? Ma dove quotidianamente? Dove? Sui media, sui giornali. Fabio, Fabio, lo sai? Lei, no, Fabio. Io la reputo una persona intelligente. Via, Fabio, non, scusi, Fabio, io le voglio dare un bacio. Io le voglio dare un bacio in bocca. Se io, provo, in bocca? Se io provo a darle un bacio in bocca, caro Fabio, che come reagisce lei? No, io come, se mi prende all'improvviso lo prendo. Se me ne accorgo mi scanso, certo non reagisco con la violenza, questo è poco ma sicuro. Abbiamo la borsa, cioè... torniamo subito, caro. Meno male. Viva i frasi, viva i frasi! È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, è la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. Allora ci chiama dalla città di Brescia un signore che qui appare come Davis, che vuol dire Davis, Davis, Davide, chi è? Davis. Davis, siamo Davis. Davis, sì. Buonasera. Davis, buonasera. Cioè non Dennis come Verdini. No, Davis, Davis. Davis. Davis. Davis come la coppa. Vabbè. Ah già, sì. Vabbè. Ascolti, vabbè, ormai mi è un po' passata l'incazzatura, quindi è passato un po' no, di tempo. No, ma perché le è passata l'incazzatura? Perché? È passato un po' di tempo, prima le frasi che diceva il buon anno, come lo chiama Parenzo, sulle differenze che ci può essere fra una manifestazione di gay o di lesbiche, come lui diceva, e perdoni il termine, ma quattro deficienti che vanno a venerare il Po. Cioè, non so come possano sapere la differenza tra queste due cose. Però vabbè allora devo dirla io la differenza. Sì, la dica. Beh, la dico. Cioè, sono persone che vanno a manifestare dei diritti civili che probabilmente non hanno, perché se ci sono persone come Buonanno che parlano come parlano, probabilmente perché i diritti civili loro non li hanno ancora acquistati. Vabbè, ma non c'è bisogno adesso di scendere nel dettaglio di queste cose. Era una... No, beh, quattro deficienti che vanno a manifestare al Po, insomma, mi sembra... Ma per me non è deficiente nessuno, no, beh, anche per me non lo sono. È un'opinione personalissima, però siccome il signore fa il vabbè, sindaco, poi andiamo avanti. Poi? E poi quando ha detto che se gli si dovesse avvicinare un gay a corteggiarlo, lui lo prenderebbe a calcio nei coglioni, io dico, ma quanto mai non sono gay? Perché se no mi avvicinerei io al signore. Perché parlare in questa maniera, secondo me, se uno ha un fratello, un figlio, un genitore gay, bah, insomma... che sono persone normali, no, ma soprattutto chi si avvicina a Buonanno, voglio dire, ma no, questo ma lo pensavo anch'io, guardi, non si avvicina, si avvicinerà chi, ma no, chi lo ama, è un bel ragazzetto, è un bel ragazzetto. Allora è con noi Claudio Cia, consigliere comunale della lista civica per Trento. Ah, è della Cia? No, non è della Cia, si chiama Cia Claudio, di cognome. Finalmente parliamo di servizi. Bene, allora chi c'è dietro lo scandalo? No, Lockerbie? Ma si chiama Cia di cognome, ah, no, non è della Cia. Della Claudio Cia, dicevo, Cia. Da dove viene questo nome, signor Cia? Guardi, non glielo so dire, in Trentino ce ne sono proprio pochi. Sono proprio pochi, beh, sì, ma sono anche pochi quelli che la pensano come lei, però. Ma c'erano gli americani allora dietro il sequestro di Moro o no? Guardi, lo chiedo agli americani. Ma questo non è della Cia allora? No, si chiama Cia. Ma non sarà mica quel signor Cia, il consigliere comunale della lista civica per Trento, che non sarà mica quel Cia lì, quel signor Cia lì, che vuole togliere i figli alle coppie omosessuali? Sì, sembra di sì. Sembra di sì. È vero che lei vuole togliere i figli alle coppie omosessuali? Sì, sì, soprattutto perché credo che il bambino abbia diritto, sì, come credo l'ha avuto lei a suo tempo, sì, e forse ancora ha diritto di avere un padre e una madre. Secondo, sì, me questa è la cosa più importante. Per fortuna non decide lei. A un bambino. Sì, allora, questo è il principio generale, Cia. Secondo lei... Non lo chiamo Cia. Claudio, come lo devo chiamare? Non deve non chiamarlo neanche. Mi chiama Claudio perché sennò Terenzio va in crisi. Parenzo. No, Terenzio è stato... Sì, Terenzio, come lei sa, che forse è uomo di culto... Anzi, no, vabbè, mi scusi se ho parlato di Però, Terenzio. Però, scusi, signor Claudio Cia, consigliere come la lista civica per Trento, signore, o che cos'è? Signore. Centro-sinistra, centro-destra, tanto famosa capì, come si dice qua. No, siamo collocati... A destra, diciamo. Sul centro. No, in centro. Siete collocati nella sciocchezza, questa è la cosa. Adesso non c'è destra-sinistra, non c'è destra-sinistra qui. C'è sciocchezza. Beh, che ci sia sciocchezza, è un suo pensiero. Nel mio pensiero posso dire che c'è molta... Adesso per ora dico solo sciocchezza. Lei appena mi dice, guarda, ho fatto una proposta stupida, sbagliata, vergognosa, io dico, allora, massimo rispetto. Per ora mi fermo e dico semplicemente c'è sciocchezza, per ora. Poi adesso andiamo avanti. Se lei insiste, io anche aumento. Per ora c'è solo sciocchezza. Vabbè, allora, Cia, le chiedo subito. No, lei ha fatto... non chiamarlo Cia. Allora, lei ha fatto una proposta... che ha l'obiettivo, lei ce l'ha confermato prima, di togliere i bambini, io direi, usando forse il suo linguaggio, che ne so, dalle grinfie di una coppia omosessuale, giusto? Allora, guardi, il linguaggio lei sta travisando, perché io non ho mai usato il termine in tutti i miei documenti, sì, in quest'ultimo in particolar modo. Se lei l'ha letto con attenzione, non c'è nessun riferimento alle grinfie. Ma perché? Qual è il problema? Cioè, innanzitutto, quali bambini su... Lei propone delle ispezioni, giusto? Ah, io propongo che praticamente venga interrotto una tendenza che è in corso, sì, per cui le coppie gay vanno ad affittare degli uteri all'estero, sfruttando, sì, anche la povertà e il bisogno di mangiare di persone che vivono ovviamente nella povertà, oppure vanno a ricercare sistemi di fecondazione artificiale, comunque forzata. Beh, quello le donne, no? Quello le donne, sì, ovviamente. Per poi rientrare in Italia con un bambino e quindi... Però scusi, lo fanno legalmente o illegalmente, secondo lei? Vanno all'estero dove si può fare? Beh, certo, lo fanno illegalmente per lo Stato italiano. Ah, cioè queste coppie che secondo lei, le coppie, cioè due uomini o due maschi che hanno un bambino perché o all'estero l'hanno adottato perché si può fare o perché una delle due donne ha fatto la fecondazione, secondo lei in Italia sono illegali? Ma guardi, al di là di essere illegale, no, ma o al di... legale, sì, a me interessa proprio poco. Il discorso è che noi togliamo la possibilità a un bambino di avere un padre e una madre, due genitori che per diritto dovrebbe poter conoscere. Scusi, signor Genio, mi faccia capire solo, no, però, questo. Lei sarebbe, l'umanità della sua proposta sarebbe quella che se c'è una coppia a Trento di genitori omosessuali che ha un bambino, arriva un signor Cia Claudio qualunque e dice improvvisamente no, questo bambino non può più stare qui, meglio in orfanotrofio. Questa è la proposta, non mi voglio ancora arrabbiare perché Cruciani mi sta bloccando, ma questa sarebbe la proposta geniale del signor Claudio Cia? Allora, guardi, intanto non sarà Claudio Cia andare a prelevare i bambini. Questo per fortuna no, ma la sua proposta vuole che succeda questo? Che se c'è una coppia di omosessuali con un bambino, il signor Claudio Cia, che non voglio apostrofare ancora con attributi o aggettivi di qualunque modo che possano sembrare volgari, non lo voglio ancora fare! Non lo voglio fare perché sono calmo, Cia! Sono calmo! Lei vuole togliere questi bambini? Posso risponderle? Sì, prego. Allora, intanto, prima che io risponda, le consiglio una fiala di Valium, così evita di accelerare. Signor Cia, non mi voglio arrabbiare, non mi voglio ancora arrabbiare. Cambia, spieghi. Confermo questa mia posizione e auguro ad ogni bambino di poter crescere con un padre e una madre. Ma questo qua è legittimo che lei lo pensi? Mi lasci parlare. Sì. E non con il vostro pietismo che sta distruggendo la famiglia. Vabbè, d'accordo. Ecco, lei è... Il pietismo lasci perdere, io sto dicendo semplicemente, lei è legittimo che pensi che un bambino debba crescere con la madre, con una madre e con un padre. Io questo lo considero una cosa legittima. Lei può pensare, lei può tranquillamente essere, figuriamoci, io sono a favore, ma lei è contrario all'adozione gay. Dai, fino a qui ci siamo, ci sono tante persone, persino Parenzo è contrario o comunque è perplesso sull'adozione omosessuale. Ma mai ma lei però sta facendo un passo ulteriore. Bravo. Dottor Cia, lei sta dicendo da consigliere comunale della lista civica di Trento che il comune di Trento, di cui non sentivamo la mancanza fino ad oggi, adesso lascia perdere, dovrebbe adottare un provvedimento. Cioè che cosa? Quale provvedimento? Me lo spieghi, signor Cia. Praticamente verificare l'esistenza di situazioni che sono al di là della legge. Ma perché al di là della legge? Ma cosa fa? Delle liste di proscrizione? Non ho capito. Fa delle liste. Vedere l'articolo 403 del codice civile, dove dice che appunto è dovere dell'istituzione verificare e quindi eventualmente anche intervenire allontanando un bambino laddove viene meno la possibilità che questo cresca in un ambiente sano, armonico. Ho capito, ma io non ho capito queste ispezioni che cosa dovrebbero accertare. Scusi, ma le pare possibile che delle persone, non so chi, degli assistenti sociali o dei consiglieri comunali vadano a casa della gente che legittimamente ha un bambino a casa perché è andato all'estero, perché l'ha adottato, perché uno si è lasciato con la moglie e si è messo col fidanzato, o perché una si è lasciato col marito e si è messo con la fidanzata e ha a casa un bambino? Che cosa fanno questi ispettori? Che cosa controllano? Guarda, scusi. Il compito degli assistenti sociali è proprio questo. E comunque, come gli assistenti sociali riescono ad andare a frugare nelle abitazioni, nella vita privata delle persone e allontanare i figli per motivi economici, che succede anche questo, non vedo perché non possano farlo laddove è a rischio la crescita sana, io ritengo sana, equilibrata di un bambino, quindi la protezione del bambino. Oh, la Cia, lei allora facciamo un'ipotesi, tutto questo scandalo che lei è una cosa innanzitutto irrealizzabile, ma è una cosa scusi. No, si deve mettere con senza la cuffia, senza gli auricolari. No, ci sono. Allora, Cia, io le chiedo una cosa adesso, francamente. Lei si immagini cosa potrebbe accadere? Cioè, un assistente sociale va a casa di persone omosessuali, evidentemente. Già questo almeno, sarebbe una violazione assurda. Già incredibile, assurda. Come si fa a sapere già che due persone sono omosessuali? Già questa è una violazione assurda, già questo. Come si fa a sapere? Ma gli possiamo mettere una stella rosa, forse, no? Al petto per girare a Trento, no? Possiamo mettergli una stella rosa, giusto? Ma guardi, noi non siamo ancora ai tempi... Forse no, ancora non siamo ai tempi del triangolino rosa, vero? Però potrebbe essere un'idea, no? Dottor Cruciani, voi state spostando il problema sul discorso delle coppie gay. Ma come si identifica una coppia gay, scusi? Del problema del ma come fa il signor Cia? Come fa? Di vivere in un ambiente costituito da un padre e una madre. Ciò che a voi è stato garantito e io vorrei poterlo garantire a tutti i bambini, compresa mia figlia, qualora io venissi a mancare. Cioè, non ho capito, se lei viene a mancare, per carità, non ce l'auguriamo, e sua moglie si mette con una donna, lei preferisce che questo non accada, giusto? Questo è poco ma sicuro. Questo è poco ma sicuro. Ma se sua moglie si innamora di una e sua figlia dove va a finire? È meglio che vada in un orfanotrofio, scusi. Ah, sì. Vabbè, ma no, ma come sì? Ma come? Ma sta scherzando? Ascolti, ma sta scherzando? Moglie invece sta con una sorella? Non ho capito. Due indipendentemente, due sorelle vogliono dormire nello stesso letto diverso, insieme. Due sorelle diverse. No, due donne insieme. Due donne diverse, immagino, sorelle, no? No, boh. Ascolti, a differenza di lei, io ho vissuto nell'orfanotrofio. Sì, vabbè, ma questo qua. E quindi so cosa vuol dire crescere in un ambiente in cui non c'è un'identificazione genitoriale. Ho capito, ma è quello che poi succede all'interno delle coppie gay. Per cui io ripeto, preferisco che mia figlia viva in un orfanotrofio, sapendo che è in un orfanotrofio, che non in una famiglia dove non si sa chi è l'uomo, chi è la donna, santo Dio. Ok, traffico, torniamo subito. Claudio Cia, consigliere comunale della lista civica per Trento, propone ispezioni a Trento nelle case dove ci sono omosessuali per liberare i bambini. Non mi dica che non è così però, Cia, per liberare i bambini dall'educazione che possono ricevere da due donne o da due uomini. Lei propone questa roba. Come no? Per salvare i bambini e dare la possibilità al bambino di crescere in modo armonico sia a livello psichico, fisico, e per sapere se si sta relazionando con un uomo e con una donna. Cia, ma scusi un attimo. Non chiamarlo Cia, la gente, la Cia è una roba seria! Basta! Non chiamarlo Cia. Traffico. Difendi i diritti umani, ascolta Giuseppe Cruciani. Siamo qui con il consigliere comunale della lista civica per Trento, Claudio Cia, che non è la CIA, ma ha fatto una proposta che io reputo CIA. Ma lei come se l'immagina? Cioè, mi dica come se l'immagina. Devo stare calmo adesso. Cia, come se l'immagina questa proposta? Devo stare calmo. Una cosa. Devo stare calmo. Ha l'obiettivo di difendere il bambino. No, ma no. Guardi, non ci siamo. Questo l'abbiamo capito, non che lei vuole, siamo, che lei vorrebbe difendere i bambini. Non ci siamo, Cia, non ci siamo. Cia, non ci siamo. Ti prego, usa questa occasione per dire che hai detto una stupidaggine. Cia, ti prego, ti stiamo provando a salvare. Di che hai detto una sciocchezza, non devi salvare nessuno. Cia, ti stiamo aiutando, ti prego. Di che stai sbagliando, di che hai detto una stronzata, Cia, ti prego. È l'ultima occasione che hai per dire a tutto il popolo della Zanzara e di Radio 24 che hai detto una sciocchezza, ti prego. Guardi, la sciocchezza gliela lascio a lei. Cia, io sono convinto della mia posizione e ripeto, cioè andare a casa della gente. Scusi, a Trento, andare a casa a Trento, della gente. A Trento ci sono omosessuali? Sì, ce ne sono, ma guardi che il mio ma quanti ce ne sono? Tanti, pochi, quanti ce ne sono? Non mi sono mai preoccupato di quantificarli, anche perché personalmente che due persone si vogliano bene e vogliano vivere insieme, questo non mi disturba. Se vede due persone che si baciano, due donne per strada che si baciano, che effetto le fa? Ma guardi, a me nessun effetto, perché di sicuro non li invidio. Ecco, non li invidia? Che vuol dire? Ma sono un po' malati secondo lei, gay? No, credo di no. Disturbati? Io neppure, non sono né disturbati. E che c'hanno? Che difetti hanno? Se per Trento, se lei vede... Probabilmente hanno i difetti che può avere ogni altra persona. E fino a qua ci siamo. Sì. Però non possono avere tra le mani i bambini. Ma se lei vede passeggiare per Trento. Non è questione che non possono loro avere i bambini, perché qui... No, non possono avere tra le mani, non possono educare i bambini, non possono crescere i bambini. È i bambini che devono poter avere un padre, oddio, una madre, non loro che non possono avere bambini. Questa è la gran differenza. Vabbè, Cia, la ringrazio, l'abbraccio fortissimo. Ma grazie. Tanto questa proposta, questa proposta è assolutamente irrealizzabile. Tiriamo il fiato un attimo, finalmente. Perché non facciamo un Diego Volpe Pasini? Così tiriamo il fiato. Ma io dicevo, pensavo Barbara Spinelli, ad esempio. Sì, Barbara Rossana Spinelli. Rossanda da Parigi. Allora, che cosa hai detto oggi, Volpe Pasini? No, cosa Volpe hai detto? Pasini, no, cosa hai detto? Un piano di guerra se condannano Berlusconi. Ma che basta, vuol dire? Basta. Non ho detto assolutamente nulla. Qualunque tipo di dichiarazione per il nostro movimento la fa Simone Furlan. Sì, vabbè, adesso basta con questa cosa. Qualunque dichiarazione per il nostro movimento la fa Simone Furlan. Ma stiamo parlando di cose, guarda, Volpe, io sono stanco, mi sono già arrabbiato tante volte. Ma ti dico solo basta. Basta, Volpe, basta anche Pasini, basta anche Diego, tutti e tre. Diego, Volpe, Pasini, basta. Basta dichiarazioni, basta interviste, basta dire stupidaggini su eserciti, su e risico e difendere Silvio. Basta, mi sono rotto i coglioni. Basta. Beh, loro un obiettivo l'abbiamo raggiunto. Scusa, ma se condannano Silvio, che succede? Basta. Che succede se condannano Berlusconi? Entrate in campo in che modo? Se condannano Silvio, si compie un'infamia giudiziaria. Vabbè, d'accordo. E dunque l'esercito di Silvio cosa fa? Deciderà Simone Furlan con il gruppo. Ma oggi chi è questa gente? Ma mi dai l'esercito? Che cosa farà? Ma chi ma è hai detto, gente? Scusa, manifesteremo ovunque anche chi contro è? I ministri del PDL se non staccheranno la spina al governo di fronte alla sentenza contro Berlusconi. Ma dunque manifesterete? Gente, dai. Che cosa? Manifesterete? Ho detto che manifesterò il mio affetto nei confronti di Berlusconi, certo. Vabbè, ma scusa, ma tu fai una dichiarazione e due secondi dopo il contrario di questa dichiarazione? No, soltanto che tu sei partecipato da quello lì che ha finalmente ottenuto quello che voleva, cioè di condurre una trasmissione su Rai 3 a casa sua, leccando il culo a tutti i suoi amici e compagni. Ecco, lo sapevo. E ti permette di fare la morale agli altri. Ma che cosa c'entra Rai 3? Come ti permetti? All'attacco! All'attacco! vada a fare le sue scorribande su Rete 3, smette di fare scorribande, ma come ti permetti? È un lettino come scorribande, ma come ti permetti? Lettino lecca culo come nessun altro, ha ottenuto di fare il venerdì sera su Rete 3. Ma tu sei motivo per non pagare il canone, ma altro motivo per non pagare il canone. Ma che tu sei matto, baccato. Finalmente ha ottenuto il suo risultato, quindi faccia quello, ha fatto bene, fa bene lui, poi fa il censore degli altri, si erge a giudice quando gli conviene, fa tutte queste cose. Io seguo la mia strada, lui segue la sua e buonanotte. Guarda, tu già hai partecipato al fallimento della trasmissione di Sgarbi, quindi voglio dire, sulla televisione diciamo nulla questio, Pasini, eh? Sulla televisione, no, da te nulla questio, da te, da te, non parlare di TV, parla di esercito, parla di amore per Silvio, fai le tue dichiarazioni, l'esercito, la libertà, gli azzurri, quello che, non parlare di televisione, no, no, non parlare di TV. Bisogna fare il contrario di quello che dici. Hai già affossato Vittorio una volta. Fine, chiuso, basta. Ci sentiamo domani 18:30. Ma solamente un cretino urla delle cose, perché vuol dire che non conta niente. A domani 18:30. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Prenda atto che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.